10, cambio, io. Ora, ora, 1, 2, 3, prova, prova. Ora, 1, 2, 3, prova, prova. A quest'ora. Le prove tecniche si fanno quando non c'è nessuno. Sicuramente molti sono con l'apparecchio acceso, dai. C'hanno già. Qua avevo acceso già dalle 4. Ricevitore e baracchino, come sempre. Ho sentito fischiare, dai. Dimmi tutto. Che prove stavi facendo? No, stavo provando per stazionare, stavo regolando. Io sono entro avanti, mentre volevo vedere che quanti stazionari mi dava, invece è proprio perfetto, 1-1 massimo, va benissimo. Ma se c'era qualcuno che deve fare una chiacchierata non mi spiaceva. Sì, tanto io non sapevo cosa fare, stavo leggendo fino quasi alle 4 roba su internet che parlava di vecchi revolver d'ordinanza italiana, il modello Bodeo, modello Tettoni, spagnolo mi pare che fosse, in calibro 10,4 ordinanza italiana, roba vecchia. Eppure dopo 100 anni dalla fabbricazione funzionano ancora, te le immagini? Lo so, perché un mio amico aveva un vecchio revolver che praticamente ha trovato di quelli a due colpi, garibaldino, il nonno era un soldato garibaldino e l'aveva trovato quando è morto dentro il comò, cercando, magari si aveva lasciato soldi, qualche cosa, stavano controllando, no, e hanno trovato questa pistola garibaldina a due colpi ed era funzionante. Sì, c'era una Derringer, visto che Garibaldi è andato anche in America, l'aveva presa lì. No, questi due erano due revolver italiani, no? Bodeo, dal nome del produttore, e l'altro un po' più versatile. Infatti all'inizio del secolo, tipo... com'era? 1917, giù di lì, quindi 100 anni hanno compiuto questa. Calibro 10,4, un calibro lento, grosso e lento, però ha detto il tipo, non crediate che sia innocuo, che sia una fiondata, questo se vi becca vi ferisce e vi uccide, come gli altri calibri. Nonostante io avessi la tabella delle potenze, era molto blando, però... erano usati in guerra, ti dico solo questo, quindi fanno male anche quelli. Certo, adesso ci sono calibri molto più efficaci, comunque già ti faceva il buco anche quello. Poi pistolette, stavo guardando la Mauser 1898 e tutti i suoi sviluppi, ne l'avevano venduta in mezzo mondo, l'hanno fatta anche in Cina, in Brasile, modificate in base alle loro, come si dice, esigenze, ecco. Poi la pistoletta Glicenti, quella minchiata. Oh yes. Dovresti fare l'armiere, Marco, cazzo, quanto ti piacciono le armi. Ti troveresti bene a fare l'armiere. Ma, non lo so, forse sì. È una passione, però non sono come quei fissati che vogliono la pistola vera a tutti i costi, che fanno carte false avere la pistola vera in casa. Non ho mai voluto pistola in casa, porto d'armi, non me ne sono preso. È solo una passione a livello accademico, dai. Oh, vabbè, io ho detto pistoletta del cacchio, ma tutte potevano uccidere e uccidevano. Nonostante, ricordati, anche un calibro piccolo come il 6.35 possono uccidere se becchi in posti vitali, capito? Cuore, testa, oppure grandi arterie possono dissanguarti e ucciderti, magari non subito ma nel giro di due giorni. E così così mi stavo guardando le pistole fine inizio secolo, dai, pistole e revolver. Il revolver sarebbe a tamburo e le pistole vere e proprie sono quelle semiautomatiche. E dice che questa pistola Mauser 1899 che aveva la piastrina, no, per mettere le cartucce nel caricatore che era fisso, mi pare fino alla seconda guerra mondiale era tenuta, sai, chi voleva un'arma particolare si è tenuto anche quella. E vabbè, dai, sì, comunque è bella saperne di armi, soprattutto armi corte più che altro. Sempre libri che parlavano di armi, i calibri antichi, l'evoluzione delle pistole, capito? Che prima erano, prima ancora della pietra focaia, il pistole tipo pirata, erano a miccia, aveva una miccia accesa, come premevi il grilletto una leva, la miccia toccava con la polvere e scoppiava. Poi le hanno fatte a polvere nera, poi a innesco, come si dice, a percussore, a percussione, poi a spillo, o contemporaneamente al percussore le hanno fatte a spillo. Sì, un bel di roba. Ah no, c'era anche la pistola a ruota, prima la pietra focaia. Pistola a ruota, tutto un marchio ingegno, che per l'epoca era modernissimo e il medioevo. Tardo medioevo, era modernissimo, come sono moderne le pistole di adesso. Ma tu, se fosse concesso, questa è una domanda che ti faccio, se fosse concesso te lo faresti un bel tabellone con tutte le pistole vere appese in casa, te lo faresti? Poster, tipo, sai cos'è, tutte le pistole esistenti non è possibile perché sono un'infinità, però con i modelli storici, i famosi modelli storici, sì, sarebbe bello un poster con nome, modello e calibro, capito? Tipo quella lì, Mauser 1898, la quell'altra mi si chiamava, mannaggia, la P08, vabbè, sì, mi piacerebbe avere i modelli principali storici, almeno di un secolo di escursione, sì. La P38 era famosa. Aspetta, quella era la signora pistola, ma tuttora mi è considerata quasi una pistola moderna, non ha niente da invidiare le pistole moderne. E i tedeschi hanno fatto belle armi. La PPK c'era, la P38 la davano agli ufficiali più che altro, la PPK la davano un po' agli altri. Poi c'era Luger, eccola quella, la Luger P08, pensa che la vendevano anche a Salve in Germania. A Salve, un pezzo unico, sarebbe, però cazzo, sai cos'è, lì in Germania sono front firing, cioè la fiammata esce dalla canna, dall'avanti. In Italia invece sono messe quelle top firing, la cui fiammata esce da sopra, come notato, no? Da sopra. Diciamo le front firing sono più realistiche perché la fiammata va avanti e sembra più vera, capito? E qua in Italia invece non le vogliono che sembrano vere, le vogliono che sembrano giocattoli proprio, col tappo rosso, eccetera. Sono un po'... ecco com'è, molto forte, ola, 1, 2, 3, prova, ola, così va bene, ecco, ti stavo dicendo che praticamente la P38 era una pistola che era nominata molto negli anni 80, nelle manifestazioni si gridava, se spara il poliziotto, P38, P38, se il poliziotto spara, lupara, lupara, te ne ricordi quegli slogan? Sì, ma ricordo anche fatti di cronaca dove avevano usato un omicidio, una rapina nella P38. Invece un ex cipino, sbagliando, che ne sapeva e non ne sapeva, la chiamava la P38 Special, allorché il padre gli disse, no, caro, o è la P38 che è una pistola semiautomatica, o è la 38 Special che è un calibro per revolver. facciamo cosa, la chiarezza gli ha detto. 38 special è un calibro, poi di pistole che usano quel calibro ce n'è un miliardo, un'infinità di tutte le nazioni, tutte le cose. Eia. A me piacciono le 38 special piccole, tipo lo Smith & Wesson modello, che modello era? Modello 36, se in acciaio inox è anche più bella, piccolina, mica, una 2 pollici, molto piccola come revolver, 5 colpi, tutti invece adesso hanno le semiautomatiche, quando si inceppano sono cavoli, rischia anche la vita. Sì, ma anche si inceppa anche quella finta, diciamo, quella scacciacani. Quello lì se l'automatica si inceppa, mentre invece io avevo un amico che ce l'aveva a muro e non si inceppava mai, sparava uno dopo l'altro. Lega. E poi sai, quelle a salve sono fatte con le chiappe, dai. Quelle vere. Oh, ci sono stati casi di revolver inceppati, sai per cosa? Munizioni troppo potenti, quindi se il bossolo si gonfiava premeva verso la parte posteriore del fusto e il tamburo non ruotava più. Oppure lo stesso, per esempio l'Astra, no? Revolver Astra, 44 Magnum Inox. Se mettevi munizioni a piena potenza, proprio 44 Magnum carica nominale, c'era un indurimento del grilletto che comportava quasi una non rotazione del tamburo. Capito? Forse si dilatava la cartuccia o il bossolo premeva sul dove c'è il percussore dietro, sulla parte dietro del fusto e aveva un attimo di non rotazione, poi ruotava, però sai, queste cose possono costare la vita se ti devi difendere. E vabbè, poi possono essere difettose le munizioni, capito? L'innesco non funziona. Ma se ci pensi, caspita. Vabbè, meglio non pensarci. Non hai mai fatto la domanda come guardia giurata? Magari a te ti sarebbe piaciuto fare quel lavoro. Magari sì, però avevo fatto domanda all'executive, solo che dice guardi, può anche farla, ma non ci abbiamo un pacco di domande alto così, noi lo protocolliamo, lo mettiamo da parte. E per adesso non abbiamo bisogno e ci sono un sacco di domande, me lo ricordo ancora. Poi vabbè, la mia schiena è peggiorata, quindi anche a stare in piedi mi costa, a stare in piedi devo stare seduto o traiato. Ecco, da ufficio può anche andare bene. Ero andato anche a chiedere in via Napoli cosa c'era, farina, che poi era fallita mi pare. Avevo chiesto anche lì stessa risposta, cioè dice, tanto vale che non ne faccia perché c'hanno già le guardie, le poche guardie. Pazienza, bisogna avere incrocci dappertutto anche lì. E poi io dovrei fare il maneggio dell'arma prima perché il militare non l'ho fatto. Vabbè che so già come funziona, sparo con quel tipo di pistole sempre o soft aero oppure aria compressa, cioè le so maneggiare, non è che. Invece c'era un pirla poligono che dopo che sparava puntava la pistola di lato verso le persone. L'ha fatto 2 o 3 volte. No, 2 volte, già la terza la sbattiamo fuori. Capito? C'è gente che così, capito? Cos'era esaurito questo qua? No, ma come si dice? Io l'avevo fatta lo stesso a tutti gli istituti e proprio lì all'esecutivo mi aveva detto se non c'è incontro lo diciamo chiaramente che non ce la facciamo, ce la cestiniamo. Provi a farla però deve avere gli incontri. E io già lo so la giusta via per gli incontri, ma la persona a cui praticamente gli ho chiesti ha trovato delle scuse, anche se lo conoscevo, capito? Sì, ma guarda che un ragazzo che conosco ci aveva in coach, c'aveva quel Meloni che era, mi pare, avvocato e politico, che poi era morto. quello che la variabile in corso per entrare, sai, negli ambienti giuridici, ho detto no, guarda, è difficile, non riesco manco a entrare, a far entrare mio figlio, insomma, gli incoci manco, non servono manco più gli incoci, capito? Non hanno voglia di raccomandare gente, magari gli fa fare brutte figure poi. Vabbè. Invece conoscevo dei, una scuola mia aristocratica, c'erano all'epoca un po' randaggi, capito, così, bulletti, e quelli hanno fatto carte false per avere l'arma, hanno trovato lavori di guardia giurata o vigilanza comunque, e hanno l'arma, ma erano randaggettini. Eppure hanno fatto di tutto, proprio carte false pur di avere l'arma. Chi la vuole troppo l'arma? Non lo so, non mi fiderei troppo. Chi la vuole a tutti i costi? Io te l'ho già detto. Per non avere responsabilità, per non fare rinnovi continui, denunce in questura, dei colpi che spari, che non spari. Meglio niente, guarda, meglio niente. Ma se tu la vuoi l'arma, basta che più fai porto d'arme sportivo, fai un po' di documentazione, spendi un po' di soldi, però poi hai il porto d'arme sportivo e ti puoi comprare le pistole di pugno. Sì, ma ci ho pensato già, me l'ha detto anche Pasquali, infatti tiro al volo, oppure, ma costa, come hobby costa, quando vai a sparare ti costano, devi comprare cartucce lì, se non ce l'hai tu, ti devi affittare le linee di tiro, il bersaglio, insomma costami, è un hobby costoso, me l'ha detto anche la mia dottoressa, se lo vuoi fare fallo, ma costa. E poi le armi costano centinaia di euro, anche migliaia, quindi no. No, guarda, io ce l'ho dato tre volte nel corso della vita a chiedere l'elenco di documenti da fare, no? Ho preso il foglio con l'elenco di documenti, ho cominciato a fare i conti, 100 là, 150 là, ho detto magari me lo faccio qua per una pistola, tanto vuole sparare salve a salve a aria compressa in casa, costa molto meno, spendi molto meno, insomma, capito già, troppi soldi ci vogliono, preferisco spendere belle in altro, tipo in baracchini. Perché così caro è il porto d'armi? Non pensavo che fosse così, pensavo documenti sì, ma roba più tranquilla, 15 euro, 20 euro, roba così, c'è addirittura colpi di cece. Sai, avere la pistola in casa e guardarti alle boe è brutto. È un po' costosetto, le cartucce, a meno che non prendi le calibro 22, un po' costa. Costano le calibro 9, per esempio. Ma con la 50, non so se costa 50 euro. Più ti devi affittare le redini di tiro, i bersagli, tutto, insomma, ti devi affittare quando vai al poligono. Non è che vai a spari e ti innanzi. Poi se vai la sera, la notte, quando c'è l'illuminazione, ti devi pagare la luce o com'è, non mi ricordo, non so. Una cifra simbolica, non so. E costa. Non mi interessa, dai, non mi interessa. O a meno che non cambi idea in futuro. Però mi rompo le palle, dai. Lo so, ma per dire, Natalino è iscritto e non paga nulla quando va a tirare. Ha pagato l'iscrizione all'inizio dell'anno e basta, e poi non paga niente. Gli danno tutto la sagoma, tutto quanto, tra le cartucce, vabbè, se le fa lui, però tra le se le danno. Ma lui va in un poligono particolare. No, io se l'avessi fatto l'avrei fatto al poligono, in via poligono proprio lì, all'inizio delle luci gialle. Capito, all'angolo con via poligono, se ne è andato lì, è più vicino, faccio il ponte nuovo e ci sono arrivato. Lui va in questo poligono, non so manco dove sia. E vabbè, no, un giorno mi volevo portare a sparare, ma non ci sono voluto andare. Ho detto no, non mi interessa, gli ho detto. È diverso lì, sai, in una zona aperta, lì ci sono, il poligono ci sono mille regole, poi ti danno, spesso ti danno munizioni water cutter, che, ma lasciamo perdere, va. Qui vedranno il piombo dolce, le munizioni, di quelle piombo dolce. Edoardo, puoi dire, questa piccola non aveva mai sparato, sparava solo a caccia così di nascosto perché non c'era porto d'armi, andava col fratello. Beh, ha fatto la domanda come guardia giurata, in continente le stavano cercando a coco guardia giurata perché stava facendo un po' di rapina nelle ville, eccetera, eccetera. Lui l'ha visto sopra questo giornale che stavano cercando guardia giurata e ha fatto la domanda. Praticamente l'hanno mandato a fare al poligono di tiro qua a Sassari a fare i tiri. Allora ha fatto 70 su 70, quello ha detto scusi lei è un tiratore scelto, no non sono un tiratore scelto, 70 tiri su 70 azzeccato. Eia. Sì, praticamente la sagoma è larga, quanto è larga, boh? Non mi ricordo quanto è larga, più di 50 comunque, pare 70 per 70, no, non me lo ricordo. Tu basta che li butti dentro questa sagoma di cartone, non proprio al centro, basta che vadano dentro la sagoma di cartone, pare. Ne devi mettere minimo, mi pare minimo 30 era. Basta ne metti 30 nel cartone di 50, adesso sono regole vecchie, non so se è ancora così, quando ci andava Martino, no, il Giuda, io andavo lì a guardare, vabbè. Poi per esempio al poligono qua vicino puoi sparare solo il calibro 9 massimo, puoi usare i 22, i 7,65, 9 come millimetri, per esempio il 357 Magnum è sempre un 9 mm, però non puoi sparare con la carica piena, puoi sparare solo con cariche ridotte, ti danno tipo pallottole in piombo dolce a testa piatta, le wood cutter, mi fa plaf, fa. Se vuoi precisione ci vuole alta velocità, ci vuole la munizione a potenza piena tipo il 357 Magnum. Per esempio non puoi usare i calibri 41, 44, 45 che sono anche blandi come velocità, sono calibri grossi e lenti, non li puoi usare qua. Invece al poligono natalino li puoi usare. C'è gente che spari calco, che spara col calibro 50 Magnum a me, 13 mm di pallottola. Ma lì all'aperto Marco, non c'ha rincuri, non c'ha nulla, invece il cazzo di, è in un posto chiuso il poligono, non è, magari ha qualche rinculo, qualche cosa ti ammazza. Comunque ti stavo dicendo, tu hai degradato le pistole, quelle scacciacani. Lo sai che quel mio amico che hanno sparato in quel locale avevano una scacciacani modificata? Per quello che si è salvato, perché lui ha chiuso la porta e un proiettile l'ha preso al braccio, poi ha fatto il tempo a chiudere la porta e la porta non ce l'ha fatta bucarla, proprio perché non aveva la potenza di una pistola vera, se no l'avrebbe ammazzata. Eia, sai cos'è? Se tu lasci la canna originale è in zama, se usi cartucce vere a piena potenza ti scoppia in mano. Puoi usare cartucce a salve che hanno mi pare 400 atmosfere di potenza, no? E metti i piombini in punta, quella roba lì, a meno che non li fa un inserto in acciaio. E comunque sono pasticci, dai, funzionano per pochi colpi, uno, due, tre colpi. Ci sono, ripeto, tanti modi per modificarli. Addirittura, ti parlo del prima del 90, era uscita una pistola salve della Molgora, no? Che imitava la Beretta 84, beh, era fatta talmente bene che gli potevi fare addirittura il cambio della canna con la vera. Quindi i malintenzionati non facevano altro che montarci una canna vera ed ecco che era fatta la pistola vera. Allora le autorità prese dal panico hanno ritirato tutte le pistole vendute e anche quelle in vendita da Pasquali, e le vendeva Pasquali in quel periodo, sì. Io mi aveva fatto la fotocopia dello schema dei pezzi, solo, capito? Era troppo perfetta come scacciacani e c'era il cambio della canna che invece non possono avere le altre, devono avere la canna fissa sul carrello. Si ripete tutto in zama, quindi sono materiali lì, basta frolla, mi capito? Oppure gliela cambi la canna, gliela metti d'acciaio, poi gliela devi fissare al fuso, però il fuso poi che non regge, capito? Si scioglie sotto i colpi veri. Quindi puoi sparare pochi colpi, è con potenze limitate. Comunque ricordati, i delinquenti veri, non i cipito, hanno le armi vere, ecco, poche parole. Bene, caro Gianni, sì, c'è divertente come hobby, Però sai, c'è l'istruttore che ti sta con sferzo sul collo, il piede in questa posizione, più dritta la schiena, non tremare con la mano, perché io non è che ci abbia la mano ferma. Devi stare bello immobile. Poi quando spari non devi sparare d'impulso, no, che ti trema la pistola. Il grilletto lo devi premere piano piano finché il colpo parte quasi sorprendendoti. Capito? Non devi pigiare che poi ti trema la pistola. Infatti devi imparare a mettere, per esempio, su una pistola salve ti puoi allenare. Devi mettere una cartuccia sparata come salva percussore, vabbè, metti una moneta da 1 euro, da 50, sopra la canna, e sparando a vuoto, no, non devi fartela cadere la moneta, cioè il tuo movimento del grilletto deve essere così morbido da non far cadere la moneta. Come diceva quel manuale di armi che ho io, devi premere il grilletto dolcemente a lungo e il colpo, lo sparo ti deve quasi sorprendere, capito? Non come vedi che cedi, che premo, e vedi che muovono tutta la pistola, no, dal tremito della mano, capito? Così non va bene, perché poi la pallottola chissà dove va a finire. Se vuoi, Gianni, ti presto quel libro che ho io, si chiama Pistole e Revolver di Rudolf Henning, un tedesco, che spiega tutto, l'origine della pistola, i calibri, vari modelli di pistole, i principali. È molto interessante come lettura, Sì, così poi mi prende male. Così ho detto, poi mi prende male e mi piglio la pistola. Ci vuole anche quello. Ciao, guarda, la macchina fotografica, se interessa a qualcuno la sto vendendo. Tanto non la sto più usando, l'ho usata 2 o 3 volte, quella professionale. Già la volta che tuo nipote ti ha rovinato tutte le foto, mi sa che ti è passata la gana. Davvero, c'è quella passione quella fotografia, guarda. Aspetta, ora, 1, 2, 3, ora, 1, 2, 3, prova, così va bene. Ok, però ti stavo dicendo che avevo una passione per la fotografia, che era una cosa indescrivibile. Facevo gli insetti, li ingrandivo, facevo macrofotografia, facevo fotografie a chi si mostrava come modella. Insomma, ne ho fatto parecchi anche ad amiche e cose, però poi mi è passata sotto la voce, ma non so perché, da quella volta lì davvero mi ha deluso. Infatti credo, odio le cose digitali per quello, perché con un'altra macchina non avrei mai fatto una cosa del genere. Cazzo, chilometri e chilometri per fare queste fotografie, poi di colpo perso in un attimo, no? Se ci pensi. Guarda, io l'avrei, a parole mie, l'avrei inculato dal danno che mi aveva fatto. Oppure comunque prima di far toccare agli altri avrei copiato su hard disk esterno. Avrei salvato i dati subito, prima di far avvicinare qualcuno al computer. Vabbè, sono cose impreviste però. Oh già, non te l'aspetti, non te l'aspetti, e quando meno te l'aspetti ti fanno il danno. E chi ci pensa? Guarda, io se pensavo una cosa del genere l'avrei messo in mano. Io ti parlo, guarda, sono andato a Bosa, mi sono fermato e c'era un uraghe andando a Bosa che era perfetto, non gli mancava una pietra. Con tutto il viale, ho fatto tutti i particolari, da sopra, di lato, tutti i particolari che c'ho prima, eccetera. Poi mi sono messo in testa di fare tutte le chiese bizantine, dell'era bizantina, sono andato a Porto Torres, sono andato a Saccargia, ho fatto la chiesa di Santa Maria, insomma ho fatto un po' di chiese, dai. Quelle praticamente antiche, dai, chiese tutte antiche. Poi non so cosa cavolo avevo fatto, avevo dei tipi proprio che mi mettevo in testa e poi partivo così per dire il giorno che mi veniva voglia di fare i prati, prendevo, facevo i prati fioriti, tipo in primavera, così papaveri, con le margherite gialle, non sai quanto sono belli, quei prati fioriti così, oppure in questi momenti devi fare mare, facevo il mare in mareggiata, e quando c'era il maestrale, facevo il mare calmo, facevo diversi tipi di posti, tipo il tramonto, il mare, il tramonto sul mare. Avevo fatto un sacco di roba, in più tutte le fotografie a Manuela quando cantava. Meno male che Manuela se ne aveva salvato lì di queste fotografie. Tutti i servizi fotografici a Manuela li ho fatti io quando cantava, capito? Sì, io. È stato un peccato quello, veramente un peccato. Ritornando al discorso armi da fuoco, io credo che quando uno non ha fatto il militare, vabbè, ti fanno il maneggio armi, però credo, almeno credo, che ti facciano iniziare a carabina. Ti fanno iniziare o a carabina, carabina sai come, aria compressa oppure pistola aria compressa, per vedere un po' come c'hai la mano, se c'è la mano ferma, perché se uno spara e sbaglia di 2 metri e rischia di beccare qualcos'altro. Almeno così mi avevano detto tempo fa, tanto tempo fa. Invece forse Rantalino mi aveva detto che ti fanno iniziare subito all'arma da fuoco. Ma non lo so, non lo so. Poi l'istruttore ti spiega tutto quanto è la pistola, come smontarla, come controllare il caricatore, come controllare il colpo in canna, no? Che qualcuno magari va a guardare la bocca della, guarda dentro la canna, no? Vedere se c'è il colpo, magari c'è il dito sul grilletto e se ce li parte. Non esiste quello, dai. Poi una volta che vedono che sia assennato, no? Che è il criterio nel maneggiare l'arma, allora poi tutto migliora, no? Tutto aumenta, fanno lo sparare la linea di tiro. Prima si sparano, credo, quando vai abitualmente poi, 50 colpi in sezione. Quanto se ne sparano alla volta? Non mi ricordo se 5 o 10 alla volta. Poi puoi sparare con una mano, con due mani, come ti trovi meglio. Certo, chi ha le palle quadrate spara anche con una mano, non ha bisogno di sparare con due mani. Tanto mille semiautomatiche, sai, hanno il carregge armato, il grilletto è bello leggero. E quindi riesci a tenere fermo, poi devi coordinare la respirazione quando spari, o trattenere il respiro prima del sparo, no? In modo da non muovere nulla. E te lo spiegano solo loro. Comunque, già, se ti piace fallo, perché no? Vabbè, tante cose mi piacciono, Marco. Per dire, a me piacerebbe avere un fucile, tipo una carabina di ara così, andare a fare un po' di tirassegno, ma anche in campagna, non me ne fottuto di andare al poligono a spendere su del coso, in campagna, per farsi qualche tiro così. Io avevo un amico che facevamo i tiri, c'era la diana, e ci divertivamo in campagna a sparare le bottiglie, a sparare, insomma, barattoli, lattine, queste cose qua. Mettevamo una trave sulla parte all'altra dell'albero, e poi sopra ci mettevamo le lattine, quello che volevamo, e poi ci allontanavamo e con la carabina le sparavamo. E per dire, ci divertivamo così, capito? È bella la diana, cazzo, anche mi usa, vedeva qualche uccello, lo tirava, lo pigliava in piedi. Allora, qua lo dico, qua lo nego, mi pare che si possa trasportare, sì, c'è la legge, trasportare fucile o pistola aria compressa, liberalizzata ovviamente, perché se non è liberalizzata ci vuole il portolarma, sono potenti quelle ti bucano la testa di una persona, insomma, lo puoi trasportare, però credo che tu possa sparare non in una campagna qualunque, deve essere una campagna propria o di un amico, e deve avere un muro di cinta alto almeno 1,80, sai, per evitare che il funghetto vada oltre e magari picchi nell'occhio qualcuno. Credo di ricordare così, metro di 1,80, e cioè non in campagne libere, no, senza muri, che passa uno, magari non lo vedi nemmeno arrivare, o in bici o come, capito? Cioè. Eh, ma praticamente questo amico a campagna sua c'ha 7 ettari di oliveto, non ti dico altro. Se ci permette vamo al centro dell'oliveto, campagne vicino non ce n'erano, quindi è la distanza tra campagna che c'era. Quindi non è che potesse dare problemi. C'era una casa diroccata che vabbè l'avevano lasciata così, dovevano costruirne un'altra, poi non l'hanno mai fatta e c'è questa casa vecchia dove mettevano attrezzi, roba così e basta. E lì ci mettevamo, c'era la casa davanti e ci mettevamo questa trave tra un albero e l'altro. E poi praticamente le bottiglie sopra, oppure ci mettevamo o bottiglie di plastica, oppure ci mettevamo lattine, roba così. E ci divertivamo così, e le latte di pelati, queste cose qua. Ci divertivamo, per dire. Era bella la carabina, mi piaceva anche un bella di acqua. Ahia. Quella che ho io, come tutte quelle depotenziate, no? Ha solo 7, joule di 7,5 joule massimi di potenza, che poi manco lì raggiunge. Quindi il tiro utile è 20 metri, non di più. Perché io ho sparato a 28 metri mi, su un bersaglio, col cannocchiale pure. Ho sparato a un foglio A4 con una croce disegnata, un bersaglio disegnato. A 48 metri sbagliava molto, proprio non era precisa. La pistola aria compressa liberalizzata ti fa 10 metri tiro utile, e la carabina 20 metri, di più non va. Poi naturalmente è vietatissimo sparare agli uccelli, a qualsiasi animale, però con le lattine ti diverti, lattine, bottigliette piccole, insomma, che si rompano. Io andavo a sparare da mia zia in campagna, anche senza, e sempre era, attenzione che ci sono i gatti che passano. Ma siccome io ho detto non sono cieco, se il gatto passa lo vedo e non sparo. È sempre paurosa di tutto mia zia, capito? Ci ho sparato anche in casa, distanza massima 12 metri posso usare qua, dall'estremità del bagno alla cucina. Sicuramente devi mettere una bella tavola di legno se spari in casa, quelle che vendono da Brickoman o da Brico Center, tavola tipo 1,80 m in abete tenero, quello chiaro, no? E si pianta il pallino dentro, però alle volte se becchi il nodo, ma lo sai che mi è rimbalzato il funghetto, il piombino mi è rimbalzato addosso, mi è ritornato indietro quasi alla stessa velocità, e se mi beccava l'occhio mi faceva cieco. Quindi sempre occhiali di protezione in policarbonato quando si spara. E non deve essere in vicinanza, come hai fatto tu, deve essere su un posto libero, in lontananza, non è vicinanza, che se ti rincula, se ti fa rinculo il pallino, ti piglia a faccia. Eia, ma sai perché? Perché ha beccato proprio un nodo del legno, quello duro duro. Se no si pianta, si pianta come nel legno, caspita. Quelli morbidi morbidi di piombo scuro che avevo, che ho tuttora, non so che marca siano, proprio si piantano nel legno, si deformano e si piantano nel legno. Infatti dopo un po', naturalmente deve essere il più nuovo possibile il legno, perché se lo lasci fuori in terrazzino all'aria, si stagiona, diventa duro, deve essere abete tenero, allora ti diverti. Se il legno è troppo duro torna indietro, ti rimbalza. Ma lo sai che una volta ho sparato a un palloncino qui in casa, no? C'era un amico anche, no? Ho sparato al palloncino, cioè nel momento che ho sentito lo sparo, il palloncino, boom! E poi il palloncino che era a fianco a me, a fianco alla mia carabina, un palloncino gonfio, è scoppiato. Cioè, ho sparato, ho beccato il palloncino lontano, ha rimbalzato quasi alla stessa velocità e mi ha fatto scoppiare il palloncino che avevo a fianco a me, figurati. Ho sentito, boom, tutum, tutum, capito? Il palloncino lontano è quello vicino, e beccava all'occhio. E perciò d'ora in poi, anche per il soft air, ho sempre usato gli occhiali in policarbonato. Una volta avevo un amico che c'era il padre che era della squadra Venaturia, che adesso mi sa di Barracciglia adesso, la Venaturia era praticamente, no, ma lui lo faceva come, proprio come lavoro, per me se era pagata, era il suo lavoro. sequestrato, faceva sequestri di fucili, tutte queste cose qua. E quando sequestrava la roba, praticamente la vendeva ai giardinieri. Sequestrava la selvaggina e se la portava a casa, si riconsegnava. E un giorno siamo andati, lo sgavuzzi l'abbiamo trovato sul fucile, c'era un Winchester. Mario, questo amico di Mario, io che proviamo, adesso sono tutti guardia giurata questi amici lì, ma io che proviamo a sparare con lui, dice, tu ammazzo, se questo qui cazzo ti ammazza, se dare due cose, dai, andiamo nello sgabuzzino, mettiamo due cuscini, e vedrai che già tutti c'è il corpo, poi lo spariamo, a parte il tocco che ha fatto, lui cazzo ha buttato di due cuscini e gli ha fatto uno stampo nel muro. Già, adesso per dire, quando ti dicono il 22, il calibro, ce l'hai un'infinità di calibre 22, che adesso non ricordo, quando ti dicono calibro 9, non calibro una pistola, ce ne sono un bel di calibri 9 lo stesso. Naturalmente certi erano più che altro la seconda guerra mondiale, erano vecchi. Per esempio di 22 c'è la percussione anulare, il 22 è corto, che è il più blando, forse non buca manco la persona, ma mai dire mai. Il 22 long rifle, il 22 magnum, sempre a percussione anulare. Poi c'è, non a percussione anulare, ci dovrebbe essere il 22 jet, che era un calibro per revolver, ma era potentissimo, un calibro piccolo, ma la polvere era magnum, era proprio potentissimo, assordante, insomma c'è l'ombre di 22, come il calibro 9, c'è il 9 corto, che è mediamente potente, il 9 è corto, no? C'è il 9x21 classico, c'è il 9 parabellum, 9x21 il bossolo 21 mm, il 9 parabellum che è quello della polizia e carabinieri, è 9x19, come potenza bene o male siamo lì. Poi esisteva il 9 stere, il 9 Kurz, che credo che corrisponda a 9 corto, il 9, un bel di 9, vabbè comunque quelli italiani sono sempre 9x21 per i civili, 9x21, 9x19 per i militari, sarebbe il parabellum, e poi il 9 corto per i civili, che è meno potente, capito? Se uno non vuole una pistola troppo potente, che magari può trapassare una persona, c'è il 9 corto, blando, facile, poco rinculo, poco tutto, capito? È bellino anche come calibro. Lo preferisco al 7,65 perché il 7,65 è più piccolo, il 9 pur essendo blando come potenza ha più potere da reso perché è più grande la cartuccia, il proiettile. Stavo regolando il frequenzimetro che stava ballando, 49,50, alla fine non regolato. Perché come si stabilizza la radio, no? In temperatura poi si muove, sì. Capito già. Per esempio, la sorella di questo amico, ex amico, no? Un certo Marcello, aveva fatto la guardia giurata in Emilia, no? E si era preso una Beretta 84, non mi ricordo se B o BB, che mi pare che uno ha il caricatore monofilare, e ci saranno 7-8 colpi, l'altra è il caricatore bifilare, ci saranno più colpi, tipo 10-12. Ed era proprio la 9 corta, era bellina come Beretta, guarda, l'84 è molto molto carina, 84 o quello che è. Poi adesso molte case di pistole stanno facendo le pistole, le cosiddette nanopistole, per esempio la Beretta fa la Beretta Nano, che per esempio è di calibro 9x21, però è piccola, molto piccola, sembra una 7,65. E lo fanno per venire incontro a chi non può portare pistole grosse, perché a portare una Beretta 98, come quella a Salve, no? È troppo grossa, pesante. E cioè adesso fanno lo stesso calibro, ma pistole molto più piccole e più leggere, che sono metà in polimeri e metà in acciaio, capito? Poi anche per i calibri più piccoli, per esempio c'è la Beretta, come si chiama? Una Beretta tipo 7,65, però lo stesso, più piccola e normale in polimeri, metà, capito? Tipo il fusto è in polimeri, e poi canna e carrello ovviamente in acciaio. spiaggia, e quindi ti trovi calibri belli, ma anche con pistole molto più piccole, canne più corte ovviamente, ma tanto meno, non devi sparare a 100 metri. Ma esistono davvero quelle pistole a forma di penna o cose del varie? Beh, quelle sarebbero vietate perché sono occultabili, non sono riconoscibili come pistole. Quelle le usavano gli agenti segreti o i delinquenti, capito? La penna pistola, sì, tipico. Hanno fatto l'altro giorno, mi pare, sul 52 o su Focus, hanno fatto vedere tutte le armi occultate, tipo penne pistola, ombrelli pistola, altra roba allucinante. Sì, vabbè, fanno quello il registratore. C'è qualcuno che li usa per registrare le penne? Guarda, da Banggood per soli 8 euro vendono una penna che fa da videocamera oppure registra solo l'audio se tu vuoi. Costa 8 euro poco più, me la voglio comprare. Me la attaccherò al sedere, però la voglio. Mi piace, non lo so, la voglio. E c'è anche il microfono ovviamente, cioè registri video e audio oppure solo audio. In più funziona anche la penna, pensa. Tu non ti rendi conto, vedi, ti possono ammazzare, e penso che sei in grado di ammazzare una persona, non una penna così di quelle a pistola. Beh sì, può essere in calibro 22 long rifle, che comunque è già un buon calibro. Può essere anche in 22 magnum. E allora sì che ti ammazza malamente. Capito? I più usati sono i calibri più 22 perché sono piccoli e sottili. E quindi sì, già sono mortali. Certo, se becchi cuore o cervello, organi vitali, muori subito. Se no muori in seguito. Cos'altro dire? Fammi una domanda e io ti risponderò. La domanda, quello te l'ha cotta, pistola. Tanto sei lì per lì, mi marco, oramai sei drogato. Eia. Poi calibri, lo stesso. I vari 22, il 765 è normale, il 765 fa parabellum, che al calibro, il grosso alla bottiglietta è molto più potente. E 9 corto, 9x21, poi si passa al 10 mm che però mi pare da noi non c'è, mi pare sia americano, lo chiamano il calibro 40, che sarebbe 10 mm. Poi dopo il 9 cosa ci sono? Il calibro 32 c'è per revolver, che sarebbe un 8 mm, che corrisponde a un 7,65 per revolver, però, capito? Poi, vabbè, i soliti 357 magnum, che è più potente, ma di diametro è 9 mm. Tant'è che con la pistola 357 magnum puoi sparare il calibro 38 special. Poi c'era il 44 magnum all'epoca, poi hanno fatto un calibro intermedio, il 41 magnum, che non ci sa fare niente, cioè sono poco diffusi, capito? Naturalmente con la 44 magnum, che è potente, puoi sparare anche il 44 special, che è come il 38 special, è poco potente, capito? Quindi se uno non vuole calibri esagerati, può mettere quelli poco potenti e si spara qui. Il 357 lo usi all'occorrenza, poi che ne so, calibro 45 ACP in America, noi abbiamo il 45 HP che è grosso, 11 mm e mezzo, ma poco potente, che però ti ammazza alla grande, è come se ti ammazza. Poi ci sono i calibri potenti, tipo calibri 45 Magnum, più che altro in America, che hanno palle simili ma potenza molto maggiore. Tipo il 45 Winchester Magnum. Poi i pazzi hanno fatto roba potente, tipo il calibro Smith & Wesson 500 Magnum. E lì proprio non so chi è il pazzo che se la porta. Per Smith & Wesson è anche lunga, vero? Come canna. Come? C'è la canna lunga, la Smith & Wesson. C'è tutte le canne, dai 2 pollici fino ai 10 pollici. Questo 500 magnum è veramente eccessivo come potenza, veramente eccessivo, ma sai che quanti millimetri? Mi pare 12,75 mm, 12,7, quasi 13 mm di diametro mini pallottola, quello ti che si apre in due, proprio, infatti non sono pistole da persone normali quelle, sono pistole proprio da mancanti. Proprio per sgretolarti. vabbè. Quando è che ti dici di apprendere la tua? Oh già, te l'ho detto, io non... Armi vere in casa non me ne faccio niente, siamo poveracci, a noi non ci rubano niente, casomai ci regalano 100 euro i ladri, sentano. Per difesa personale, non sono un gioielliere, non sono una persona che porta valori, quindi... Vabbè, ma anche se dovessero rubare, la pistola non la puoi usare per legge. Hai visto quello lì che ha ammazzato il bandito che adesso è indagato? Ma lui gli ha sparato, non so se stesse scappando quello, cioè se scappa non gli puoi sparare nella schiena, e se non stava scappando comunque gli ha sparato 8 colpi all'impazzata, così alla cieca. Non ti, te l'ho detto, chi porta una pistola deve essere un po' freddo e determinato, non ti puoi cagare e sparare colpi all'impazzata, capito? Perché se no davvero è eccesso di difesa. O sparali alle gambe. O perlomeno ne spari uno, poi se sta ancora in piedi, vedi, ne spari un altro, no? Tu, capito? Quelli sono gli sparatori folli. Arrafica. Era un avvocato anche, non era una persona come si deve, effettivamente più stati vicino, hanno detto che era una persona molto in gamba, una brava persona. Ma sai com'è? Ci sono persone che reagiscono in modo più ponderato, ma ci sono persone che quando vedono ladri in casa, sconosciuti, perdono il bet e l'intelletto, e quindi si sparano a tutto ciò che si muove. C'è gente che ha ammazzato magari figli e figlie che tornavano di notte tardi, hanno visto l'ombra, hanno sparato e magari era il figlio che era tornato di notte tardi, o la figlia. È molto difficile sapere come si reagisce in condizioni così di pericolo. Bisogna esserci in mezzo per dirlo. Uno si può anche cagare sotto. Se ti trovi quattro banditi in casa, non ti caghi sotto. È normale che ti caghi sotto. E che la reazione sia quella. Comunque se sono armati, se vedi che hanno un'arma in mano, soprattutto da fuoco, se è arma da fuoco devi sparare subito. Se è un coltello, casomai gli butti, intimi di buttare il coltello, se poi vedi che fa un passo solo verso di te, gli devi sparare. Perché il coltello ti ammazza tanto quanto la pistola. E soprattutto non fa rumore, capito? Magari ti trovano morto dopo giorni e giorni a casa. Mica forse c'è un po' un buio. Comunque, ho Gianni, Natalino ogni tanto va a sparare, mi ha detto anche a me, dai vieni a sparare, ho detto no, non mi interessa, se tu vuoi andare, lui ti porta al poligono, poi sai, conosce gente, magari qualche colpo te lo fanno sparare, anche se non sei titolare di porto d'arma. Tanto lì, c'è polizia, carabinieri, insomma. È un ambiente tranquillo, capito? Capace ti fanno sparare pure. Un giorno è venuto alle 10 di mattina a bussarmi, una domenica mattina alle 10 mi pare mi aveva telefonato Natalia, io andiamo a sparare, cioè io mi stavo girando dall'altra parte alle 10 di domenica mattina. Tu sei mandrone. No, il titolare del capo di tiro è un amico mio, quindi io problemi non ne ho. Conosco a Gianfranco, io, proprio il padrone. È accoppiato, guarda. Aspetta già, abbi pazienza. Ma non ti sei accorto che sono nel magno? Sotto, dormito. Aspetta. Aspetta. Colpo di sonno. Aspetto attaccando l'apparato. Via. Quanto è coglione l'uomo, scusa cazzo. Mi chiamano da una parte, manco il tempo di attaccare la radio e spengono. E non rispondono più. Pigliala in luce allora. Io ti ripeto che quella radio lì, raga, che portati che c'ho a casa, non è stato più usando uno, li ho messi tutti da parte, non è stato più, non è usato neanche in ascolto, prima li usavo solo in ascolto, adesso non li uso neanche in ascolto. Vabbè, io ho risposto, ma non ottengo risposta qua. Cosa stavo dicendo già prima? Gente ha rotto il filo, adesso non mi ricordo più cosa ti ho detto. ho detto Marco, non mi hai risposto, vabbè, non me ne ricordo più Marco. Che stai usando il Magnum, però il Galaxy è sempre meglio. Scappa, ciao Claudio. Dici tanti sì. Eh beh, mi devo abituare alla vita pensionata. Mi pare che adesso l'hanno anche aumentata la pensione, lo sai? Gli anni di pensione si ci devono aumentare. Manco pare me la tutta a me. Vabbè. E da vedere, se te lo aumentano prima che vai in pensione, cosa fai? Era bravo. Se l'aumentano sino a 67 anni, come stanno dicendo. Falli dire, io la domanda l'ho già fatta, provate tutto. Ma provate quando te la danno? Tu da gennaio 2018 vado, però dicembre sono già fuori perché ho le figlie. Vabbè, a godertela. Ma che? A godermi la liquidazione? No, a goderti la pensione, in salute, che è più importante. Sì, anche quello è vero. Stanno mettendo sempre l'età, di modo che ti danno la pensione dopo il gribisci. Così piace a loro, così non devono pagare più nulla. E ci picchiami nella giovetecchia, perché questo è così. Sempre meglio il Magnum, Claudio. No, è sempre meglio il Galaxy. Per te è Marco. No, per tipo di modulazione, più bello il Galaxy. Cavolo. Ecco già vedi. Così è. Già va bene. E quindi di la depressione. Tipo le ciabatte, va. Ciabatte, è un buco ciabatte. Io sono lì, sto vestendo, non sto in ciabatte, no? No, ciabatte fa apparire. Non vedo più il pesciolo. Già va bene. Chi ha dato. E bisogna che si meriti anche la pensione. Beh, certo. Un ospizio solo me devo tutti. Devo comprare una radio da 8.000 euro. No. Marco 5 costava 1.400 euro. Siamo Marco 5. No, ne ho visto una già Marco 5. No, già, poi già ti faccio la foto. Comprati una bella macchina grossa, cosa radio, vai in 4 radio, già te ne fai. Sei stato sempre pieno di radio. Ti prendi una bella macchina per la famiglia e via. Un bel macchinone, Pirus. Quello, ma non faccio niente di macchinone. Di estate ce l'ho avuto e di inverno già ce l'ho la macchina, in 47 non va nuovo. L'aria sarebbe cambiata. Se certo passa mia moglie, ci trova la settimana tengo io, tu non hai visto, no? Ci fate tutti nuovi di macchine da Roberto. Ci piace poco di là. L'aria la prende la macchina. Bella macchina. Serie 1 della BMW. Al posto di quale? Di nulla. Ilaria quale usa? Con la tua? 147, sì. Quella lì era una bella macchina, adesso diciamo che è un po' obsoleta come macchina. C'è la Giulietta adesso che mi piace molto. Faccio un bel capello alla Giulietta io. Non ho niente che fare la mia con la Giulietta. Lei deve confuggere tu. La mia è un 2016 valvole GTDM, va 134 cavalli, sarà anche, tu non l'hai vista. Tutto che non va nuova, c'è il nylon e serie di dietro, è tutta in pelle, ma buffone dice, alla riga, la sfrutto, nuova, motore eccezionale, una bella bestia, me la tengo ancora. Me la sfrutto bene, c'ha pochi chilometri, la macchina è nuova, così già ripeto. Oh yeah, e poi si vedrà, adesso stiamo pensando alle macchine, ce ne cose da fare. siamo alla radio. Stanno per la liquidazione, ci fece cracca. E infatti, adesso vediamo. Bisogna conservare come una formica. Questo gran parte di noi in radio e macchine non ne va della macchina, non fa vedere che va la macchina nuova, ma tutta sera, ma io mi ho sistemato la mia 600, tanto mi diverto, va più che bene, però quella passerà la mia moglie, poi vediamo, tanto io macchina non dicevo cosa lo già fare la macchina, a stare in giro a consumare gasolio e benzina, ma io uso la macchina, non devo uscire a fare commissioni, sennò sono impegnato in altre cose, già la moto d'estate va più che bene, non ho bisogno di macchina nuova io. No, nemmeno io dico la verità, io lo faccio solo perché poi devo fare chilometri, cose da mia ne ha già un bel di chilometri, e gli ho fatto i freni davanti e dietro e gli ho fatto la cinghia di distribuzione, adesso va bene, ma adesso è di lusso. Originale la mia, ho cambiato solo le pastiglie, non so la vuoi giambà, ma stai scherzando, e la cinghia di distribuzione ha fatto lo zeddo l'anno scorso, basta, cinghia, cuscinetti dal trattore, alternatore, tutte quelle cose di mano, di motore io non gli butto manco un cinto, scherzo, salta dritta questa macchina che andrà a accelleri, ma stai scherzando, cosa devo fare? Chilometri, ma ora già fa miglia romesi, cosa devo cambiare? No. L'aria fa chilometri, l'aria c'è un po' di spostamenti, io no. Marcolino Condor, perché sei in PMR, cosa è successo? Sono al telefono, eh? No, al telefono sì, pensavo che eri in PMR. La risposta? Ehi, non ho toccato il telefono. Stavo facendo lezione di aria. Proprio appassionato che tu dovresti parlarmi. Usci esaurito i documentari pare anche l'uno. No, non gli piacciono nemmeno le pistole per in casa. No, ma è lui appassionato, tutta la storia delle armi la conosce, i calibri, i tipi di canne, tutte queste cose qua le conosce. È super informato sulle armi. Col tempo che c'ha, magari leggi un bel. Claudio, ma tu che l'hai fatto? Il porto d'armi sportivo, molto viene a farlo. Ma cazzata, non so se ne stanno andando ancora, io ce l'avevo, ce l'ho un bel, ho fatto con Franco quando ero, c'era l'ispettore Belfiore, adesso non so neanche chi se ne occupa. Sì, sempre lui c'è. Le armi corte da porto d'arma in generale. E cosa ti stavo dicendo? Perché Marco ha detto i 100 euro qua, 100 euro là, non l'ho fatto per quello. Adesso ha colpito i 100 euro addirittura, ha detto, sembra strano che sia così tanta. Beh sì, ho pagato allora, quando l'ho fatto io, 80 euro ho pagato. Traversamenti, balle varie, marche da bollo, cazzi e mazzi. Tanti da dire, ma io ce l'ho più di 7-8 anni. Devi fare anche la denuncia a questura, così? E già lo credo. Denuncia a costura, in questura, denuncia di possesso, lo spostamento te lo danno loro, da qui a lì e buh, capito? Cazzo, te lo trovano in macchina fissa, ti vuole in margarita. No, devi c'è l'itinerario, no, da fare. Addirittura io so che se c'è la strada interrotta devi avvisare che stai cambiando strada. Non è vero, un cazzo. No, no, quello no. Ciao, Antonio. No, no, quello no. Se c'è per esempio una gara, non so, anziché essere a Sassari, perché l'itinerario era prima da via Pascoli al poligono, io andavo so, poi ho fatto da via la Marfa al poligono di qua, però se vuoi andare a sparare in altri poligoni devi fare la comunicazione allora. Ciao Natalia. Non devi fare nessuna comunicazione, lo puoi portare in tutta Italia, quando e come ti piace, anche fissa. Di poi sicura misura che è un po' dai, ma per uso sportivo io ce l'ho solo, non come il tuo. Per uso sportivo io ce l'ho, per uso sportivo proprio quello da caccia l'ho portato in questo. Vedi, manco lo sapevo io, allora è cambiata la legge. Perché a me a Franco Preferi ci aveva detto, se fate spostamenti diversi dagli itinerari che avete denunciato, perché noi avevamo denunciato perlomeno, avevamo denunciato a Via Pascoli, al poligono di Via Pascoli. Quello conoscevamo noi e basta. Se invece aveva detto, se fate degli spostamenti, avvisatemi, ok, che vi faccio un permesso permanente, non lo so cosa cazzo, capito? Forse hanno cambiato le cose, non lo so. Quella è la carta verde, non esiste più, quella che fanno al tirassegno. Il porto d'armi è il porto d'armi. E poi qui c'è tutto. Ah, ma io ce l'ho solo per la pistola, attenzione. E va. Ah, non esiste più la carta verde? No, non esiste più. Ci vogliono 120 euro per il maneggio delle armi. Due certificati medici, uno anamnestico dal dottore tuo e uno dall'autorità da dove prendi la patente praticamente. Forse tutto in questura ed è finita in chi. Devi pagare un paio di macchine da bullo e boh. Insomma, con 200 euro te la capi. Forse anche di meno. Adesso lo devo rinnovare io alla fine del 2018. Anche io devo rinnovarla. Devo rinnovare 2018. Ottobre 2018. Sì, sì, infatti, ho speso una tantina di euro tra macchie da bollo, balle varie, insomma, non mi ricordo, tutto mi pare che è avvenuto più di 100 euro sicuramente, però ti sto parlando di un sacco di anni fa. Adesso è di più già, capito? Stavo chiedendo così perché Marco ha 100 euro qua, 100 euro là, è possibile che costa così tanto? Sì, sì, ci sono un bel dispenso. Adesso non so se l'ha detto per modo di dire oppure se in effetti pensava davvero così. Io, tanto non è che devo fare io. Ce l'ho a casa, non ce l'ho portato da bene niente. Ehi, ma non odia nessuno già? Ora pistola di quelle scacciacani, non è vero. Non lo so, ma forse Natalino ti può dare, ma penso che anche quella si può detenere, quella di Natalino. E io col tappino rosso, se tu il tappino ti arresta. Lo so che si deve già mettere il tappino. Però non si può portare in giro, è a chi si tratta, ne si freccia pan addosso. Si tratta in questura. Mi parte di poco di cose, ma è regolare, se non è regolare, capito? Anche se è libera vendita ed è una scacciacane, non la puoi portare addosso perché non lo sanno se è vera o non è vera, capito? E poi dire a Capodanno, ho invitato in una casa di punti e me l'ho portata presso. Vabbè, non mi hanno filmato. No, non è nascostare niente, lo lasciano sul sedile di giù. No, invece vuole nascoste, non si deve vedere. Chiusa la scatola sua, qua, col coso, con lo stantufo per pulire la canna e le attrezzature che c'ha dentro e basta, mattoline, le cartacce. Vabbè, però sempre è un pericolo. Porto c'è la sua cassettina chiusa e boh, metto nel cofano, capito? E sempre documenti appresso. Tu ce l'hai bene, non è... Eccomi. Come a me giocato, non mi dici che sparano al velo. Cioè, esce il fuoco là sopra, quando spari esce il proiettile, il coso, il mosso. Come faccio il mosso se c'ha il a salve quella? Come faccio il mosso se c'ha il tappino? Allora ne è bucato il tappino, così è Natale. No, esce da sopra il mosso, non a parte di davanti, il mosso lo so. Mi non mi fate incazzare, mi? Mi Marco, esci da già. Eia. No, era al telefono un attimo. No, e Claudio dice, come fa a uscire il bossolo? Certo, il bossolo è quello in ottone. Proiettile c'è davanti, dalla pistola vera. Quello è il bossolo. No, perché c'è gente che non distingue tra bossolo, cartuccia e proiettile, capito? La cartuccia comprende tutto, palla, bossolo, innesco e polvere. Il bossolo è quello di ottone, il proiettile è quello che esce. Eccomi qua. Ditemi, ditemi. Città, professor Mafra. Sì, ma hai detto una pistola giocata, come ti fai a uscire il bosso? Proiettile, ho capito che non ne hai, non esce. Ma il bosso la rovesce, se hai giocattolo. Scusa, se a salve e fa rumore, ci vorrà un bossolo con la polvere dentro, no? C'è il bossolo, l'innesco e la polvere, manca il proiettile. È chiaro che una volta sparato il bossolo va espulso, no? Se Claudio certe volte mi lascia a bocca aperta. Ah, dalla direttamente dalla pistola esce. Dice orgoglio, non ho mai avuto di gaggati di giocattolo, la mia è vera. La mia esce tutto, già lo so, ma queste giocattoli io non le conosco, non lo so. Lo so, ma lo sparo come credi che lo facciano? Volontà divina. Chiaro che c'è una cartuccia salve, capito, che ha solo la polvere, ma non ha i proiettili. La canna è chiusa, è otturata e c'è il tappo rosso. Sopra la canna c'è un forellino e i gas della fiammata escono da lì. Sì, ma si apre la pistola per col recupero dei gas, capito? Praticamente si... solo lo toglie quando spara fa il recupero di gas e apre la pistola e toglie il bossolo sparato e poi la molla riarma. Allora è che vede una differenza, tu non ti spieghi, quello volevo capire io, non è come la pistola vera. Oh yeah. Beh, è chiaro che non è una pistola vera. La fiammata esce dal forellino sopra la canna e il carrello otturatore, arretrando, espelle il bossolo. È tutto lì. Serve a sparare a capodanno o a spaventare i cani. Non per niente siamo lo scacciacani. Io non ho detto scacciacani, io la conosco come lanciarazzi. No, le lanciarazzi sono un'altra cosa. Perché sfogano la fiammata attraverso la canna. E poi le lanciarazzi sono vietate, cioè ci vuole porto d'arma, le scacciacani no. Lanciarazzi poi peraltro hanno un bicchierino portarazzo da mettere in punta. Che sia finta. Quelli che usano le barche. Sì, però ci sono pistole uguali a quella salve che hanno il bicchierino, mentre il razzetto e lo spara. Però molti confondono le scacciacani con le lanciarazzi. No, è un'altra cosa. Uno li aveva una volta una che praticamente non c'era bicchierino. Poi ho detto, poi c'è anche questo, l'ha vittato e qua ci va il razzo. E la uso come lanciarazzi. E io quelle pistole non le conosco, non lo so. Non so se è uguale, se sono pistole diverse, cosa ne so. Pistole di gioco. Poi mettiti i giocattoli, giochisci. Questa sembrava una pistola vera, poi metto, no, questa è una pistola lanciarazzi, ha preso e ha avvitato questo coso in punta. Questo ci va il razzo a capodanno per sparare, la uso come lanciarazzi. Poi se la voglio usare come pistola normale, lo svito, mi ha detto poco guglionati, e ha detto va bene, auguri, ciao. Sì, praticamente sapete cos'è il razzetto? Sono rossi, no? È uguale al petardone magnum, no? Solo che anziché la carica lunga, no? L'innesco lungo scoppia dopo un secondo e mezzo, due. Tempo di spararlo, vola in aria e poi pum! Certi hanno anche una coda argentata, o meglio una coda dorata, cioè spari, quindi questa coda dorata mentre il razzo viene lanciato in aria e poi scoppia. Certi invece non ce l'hanno, quindi non ha effetto scenico, ha solo effetto sonoro. Adesso ti sei spiegato meglio. E ti usiamo, tratta lì. Oh, e lo già vai, Dolorici. Ah, ieri nata lì, come hai chiuso di colpo? Perché è venuta una voce. Sempre il giornalista. Voglio vedere se quando mi pongo la canna a pesca si ridicio i buri. E si ridicio i buri, si ritene i buri. Ma ieri notte? Sì, a voci questa qui. E se è un attenti che non va in questura, li denuncio pure per molestie. nota è colon olorato, quindi come ti ho detto io il problema è l'oro. Quante volte lo devo ripetere? Il problema è, però, Natali, tu devi essere più determinato. Tu hai detto, io me ne affutto, io continuo a modulare, li lascio cantare. Invece ogni volta che vengono a urlare, poi chiudi subito. Poi loro possono, tipico dei greggi che fanno scena, no? Loro possono urlare quanto vogliono. Tu hai la concessione, tu sei in regola, c'è il baracchino omologato. Tu non devi rendere conto a nessuno. Loro possono urlare quanto vogliono. Io ne posso uscire anche gli occhi a loro. Sbagliato, cioè mia moglie che si è messa a voce pure lì e per non causare casino ho chiuso, però non ci vengano più qua, mia, sino, la, tu non rispondere più, già rispondo io, gli ho detto. Ah, per quello. Vabbè, certo che se si potesse alzare, però scusa Natali, io fiducia in questa canna da pesca non ne ho, perché spiegami un motivo tecnico per cui la canna da pesca non dovrebbe fare più guai secondo te. Non ne fa, e in più è anche più silenziosa di questa, che c'ho il QRM sempre alto con questa. Se uno arriva poco poco più basso non lo sente. Perché ha più ricezione, riceve di più forse, e riceve anche più il QRM. Vabbè, comunque staremo a vedere se la canna da pesca non farà TVI. Cazzo, ma mettiti da lì. Non ha piano di massa quell'antenna già, è troppo bassa, c'è radiali attaccati a terra, agione natalino. Per poter essere a posto con l'antenna, deve essere almeno 2 metri, 3 metri dal tetto. Allora è montata bene, adesso non va bene così come è montata, ed è l'antenna che sta disturbando. Marco, è l'antenna che sta disturbando. Televisore lo fa lo stesso. Sì, però Natalino non ha alcun disturbo. Com'è possibile questa magia? È colpa degli altri, ci hanno qualcosa che non va, o amplificatori o non so cosa. Vabbè, Natalino è cannoso, che non disturba il suo ma disturba gli altri. Ti ho detto l'altro giorno che io da qua dal 1985 oggi non ho mai rotto le palle a nessuno e non uso baracchini, uso radio anche alterate a volte, capito? Soprattutto non su NHF, 10 metri eccetera, con un amplificatore, direttive, chi più ne ha più ne mette, mai. Mi ha portato un baracchino modificato Massimiliano, ma Totò provalo a vedere come va. Alza mai, tutta ce l'ha dalle Wachonia, e tu cosa vedi? La processione scendi, capito? Tutta a bordi, cla, dove c'è voi? Cosa c'è? Siamo già stati, cosa c'è? Che la televisione non ci vede più! Ho preso e gli ho restituito. Ma Natalino ce l'ha omologato adesso, quel Goldatex. Cos'è, di chi è questo baracchino? Suo o tuo? Suo è un apparecchio piccolino, Goldatex omologato. Lui disturba anche con l'omologato. Allora, o si alza l'antenna, o si alza l'antenna. Quello si può fare per tentare di ridurre il TVI. Una situazione difficile, comunque ripeto, io qualcuno qua aveva fatto la stessa cosa al telefono, ho pensato anche uno scherzo, poi tutto è taciuto. Sì, Marco, ma lì la zona tua è zona tua, lì è una zona dove la gente, io l'ho già vista perché il giorno che stavamo piazzando l'antenna, vedeva voi, entrava i denti, prendi come intendi tra di loro, capito? È un posto così. Non so cosa dire, non lo so, io ti ho detto per fare la prova del 9, vai a casa sua, portali uno nuovo del tuo, nuovo, con questo cazzo di filtro che hai detto tu, montate quella roba lì e vediamo se è proprio il baracchino, o se è l'antenna, o se, è puro, o se oppure c'è qualche attenuante per non poter disturbare, e prova dovete fare. Vabbè, un omologato vale l'altro. Io li posso portare il filtro, ma so già come sarà il risultato. Non servirà a nulla e quelli continueranno a rompere gli ioioni. Ma quelli rompono gli ioioni perché vogliono togliere l'antenna, secondo il mio punto di vista. Capito? Perché il problema principale di loro è quello. Non è il problema del disturbo, perché sono convinto al 200% che lui non sta disturbando nessuno. Oppure qualche righetta così, qualche fesseria. E si abbiglia Rigoneto, punto. Magari le righette, le squadrettature le vedevano già prima, capito? È arrivato Natalino e è arrivato l'alibi, il capo espiatorio. E vabbè, adesso appena posso gli passo il filtro, chissà che faccia qualcosa. Natalino c'è una spezzone da mettere tra baracchino e antenna, sì, tra baracchino e filtro. Eia, è già il filtro qua. C'è già il filtro, e che filtro è? Quello della ZG, poi ce l'ho omologato, l'ho rimesso il filtro poco fa, prima di entrare. Io ti ho detto, tutti hanno detto che quello della ZG non serve a niente, niente. Si può tentare con questo. Se questo fallisce, allora bisogna alzare l'antenna. Non c'è altra aspettativa, prospettiva cioè. Infatti, quello è un filtro più professionale, quelli a ZG facevano a nuda Natalini, e comunque la strumentazione a ZG, danno il tempo che trova, lascia verde, quello che c'ha Marco è più professionale, provate con quello, può darsi che attenui, che risolva un pochino il problema, e poi si vedrà. Cosa vuoi ti dici? È rottura di balle, guarda, allucinante, riprendi già. Già passerà, te lo ricordiamo, è stato quello che mi faceva lui. Io penso che sia stato quello più bombardato di tutti. E chi? Io. Quando mi facevano bigliettini, articoli sui giornali, di tutti di più pareva. Vabbè, ma almeno hai risolto, capito? Ti hanno lasciato perdere, qua è una lotta continua, puoi andare a alterare la testa alla gente, capito? Perché poi vedi cosa succede, che Natalino bisticcia con la moglie ed è un casino, per cui poi l'altro. No, tu. No, io non è che ho lasciato perdere, hanno cambiato l'antenna, già lo sai, hanno messo quella francarra, quella che ha toccato il tecnico, doveva fare un verbale, no, sul lavoro, eccetera, eccetera, e a dire com'era l'antenna mia, ha provato l'antenna con 5 watt e disturbava, poi ha toccato l'antenna, quella del televisore, per fare da pizzi, ecco perché non devo mettere nessun filtro nella sua antenna. Praticamente bisogna cambiare questa di antenna, mettetevi i soldi in tasca, cambiate l'antenna e poi risolto il problema. Ha cambiato l'antenna, poi avevo provato tutti i condomini, non disturbava nessuno. Il problema è che lì è centralizzata, già la conosco io. Già l'ho visto dopo l'antenna e il lavoro che abbiamo fatto noi. Invece lì centralizzati non ve ne è. Ognuno va in antenna, va rifatti giù e tutti vanno in amplificatori. Il problema è quello. Quindi la cosa che io ho già detto a Natalino, di continuare a modulare normalmente con l'omologato, però il microfono che sta usando adesso, tutto regolare. E di fargliela chiamare l'esco radio. Fagliela chiamare tu. Quando la chiamano, misurano a te, tu sei a posto. Caffè d'uno, si intende male. Sta tranquillo che si intende male. Ma il fatto sì che ne disturbi uno, ok, ma se ne disturbi in tanti, fate un comitato di quartiere e vi vanno tutti incontro, capito il problema qual è? Tutti hanno un amplificatore d'antenna lì, Gianni, tutti hanno un amplificatore d'antenna e non si può usare, punto. Ok, io lo stesso problema l'ho avuto appena sono arrivato in via Pascoli. Mi sono imboccato le maniche per non creare nessun problema con Franco. Siamo andati da questa signora, attaccata a me al palazzo di fronte, e abbiamo messo a posto la centralina. Era in terra, tutta una strada, tutta incasinata. Quelle sono case vecchie. Cosa ne so io cosa stanno? Sì, so, con un'antenna so in tre o in quattro. Cosa ne so io? Tu fa arrivare l'esco radio. Quando arriva l'esco radio, misura a te ti dà l'ok, tutto a posto, signor me, tutto ok, lei è a posto, adesso chi è il signore che ci ha chiamato? Claudio, perfetto, andiamo a casa di Claudio a vedere la situazione. Se a casa di Claudio la situazione non è a norma, pagami, mandi miglia da sul Tomaro. Oh Claudio, dimmi. Eppure una volta ho fatto questo quesito a Gianfranco, no, che entra con noi sul tardi a salutare. Io ho detto, ma è vero che gli amplificatori d'antenna per antenna TV sono vietati? Mi pare che mi abbia detto no, assolutamente no. Cioè, ha asserito che non sono vietati. Allora a chi dare ragione? Tu stai sereno e tranquillo, che te lo sto dicendo io. E se te lo dico io, vai tranquillo. Perché a me mi ha detto proprio chi lavora alle sue radio. Sono vietati. Oppure devono avere una taratura minima se il segnale è debole. Se il segnale è debole, che c'è una posizione debole, che sia in basso, che sia in una campagna, dov'è? Allora su Monte Oro dai leggermente di amplificazione all'antenna. Ma da Sassari, dal Corso Trinità, che Monte Oro ce l'hai a un chilometro davanti, a vista ottica, tu devi usare l'amplificatore d'antenna. È come che io usi l'amplificatore d'antenna che vedo le antenne di Monte Oro da casa mia. Cosa ne faccio? Ma non solo Monte Oro, anche Badi Urbana. Cosa ne faccio? Capite? Avanti Giuseppe. E già lo so che tu ci sei in mezzo sì alla grande tu, però tu stai giocando in casa, capito? Tu disturbi a chi? A tua nipote, a casa tua. E quindi ti metti d'accordo, ciccia, qua abbiamo un problema di quartiere, Giuseppe, è diverso. Vado in bagno. Sì, ho capito, ma non hai sentito la mente, neanche tua nipote si lamenta? Ho capito, quindi giochi in casa, Giuseppe, e tua nipote ti avvisa, ti fa zitto. Io e tu smetti. Ma la Natalina lo stanno ammazzando, Giuseppe, è una cosa indescrivibile. Prima ha iniziato uno nella sua via, poi quello di fronte, poi un altro, adesso dietro, dall'altra parte, e basta, cioè, boh, non lo so cosa è, capito, Giuseppe? Avanti Gianni. Ciao Giuseppe, invece di sito, non so se mi ascolti perché non mi hai risposto poco fa, ho pensato che non mi ascoltassi. Anda bene, buonasera, avanti. Scappa, questo mi fa piacere, dai. Anda bene Giuseppe, vabbè, sì che si disturba in famiglia, è tutto regolare, dai. O quasi, almeno. Con gli studi gli altri, poi si mettono d'accordo uno con l'altro, l'unico di Claudio che volevano fare il comitato in quartiere anche da me, e volevano raccogliere dei film per farmi togliere la mente. Me lo ricordo perfettamente, ancora me lo ricordo, però capito Giuseppe gioca in casa, quindi problemi penso che non ne ha, si mette d'accordo con la nipote ciccia, ma qua sta diventando un'odissea, alla fine cosa devi dire a Natalina, cosa devi dire? Devi dire che si tuffa, abbiglia tutto, va tutto a pezzi, come qualche d'un altro e basta, tutto lì il problema, capito? Vecchi me. Saluta Giuseppe. Avete parlato in due. Ciao Giuseppe, ben sentito, mi ascolti? Tanto per cambiare. E là del tempo e lui deve fare una manovra prima. Giuseppe, a Marco l'hai sentito? Ehi, dai, mi sento male. Abbiamo chiarito, dai. E quindi, poi Natalino, se ti metto le mani addosso, le denunci per percosse. Che da noi non c'è reato di aggressione, lo chiamo percosse, capito? Per carità, che gente. Quelli si stracciano i capelli mi pur di farti togliere l'antenna, lo sai. Però scopposte non ne chiamano, te lo dico io. Non diciamo neanche di venire a pagare, Marco, capito perché non ne chiamano. Sono anche dei figliacci. Lo porteranno alla disperazione, ma non chiamano proprio niente, hai ragione. Cioè, magari Natalino si suicida. No, nel senso che si scoccia, capito? Quello che sto dicendo io. Si scoccia e basta, però è così, punto e basta. Però allora, Natalino giustamente non gliene deve far passare una. Quando c'è quel billoi di fronte con la musica alta, a manetta, si chiamano subito i vigili urbani. Capito? Qualsiasi cosa che facciano che non è legale, gliela deve far pagare Natalino, capito? Dente per dente. Quando non fanno la differenziata, Natalino deve segnalare la cosa, capito? È così che funziona. Gianni, quando vuoi, se vuoi sparare mi vai con Natalino, capito? Io pistola non me ne faccio nulla, io l'ho detto, non sono ricco, non sono una personalità, non sono niente, non me ne faccio niente la pistola, non me ne faccio nulla, è una responsabilità, è una rogna e basta. Ma sei drogato, vuole armi. Sì, è un modo per sfogarsi, è quello Natalino. Veglia, poi costa un po' il tiro a segno, capito? Non mi interessa. Se ti ho detto che Natalino si è iscritto all'inizio dell'anno non paga nulla. Ma lui va in un posto diverso che io non conosco. Poi ricordati, io devo fare il maneggio di armi. Sì. prima, il maneggio di armi lì non credo che lo facciano, perché lì è già roba per gente esperta. Il maneggio di armi si fa al poligono, in via poligono. Poi per ulteriori informazioni Natalino mi spiegherà, casomai. Certo che sì, abbiamo fatto 3 mesi con Franco noi, 8 anni fa, di maneggio, prima di farci sparare. Ma tu hai fatto il militare, Claudio, tu non dovevi fare maneggio armi, perché Marina non hai fatto maneggio armi. Ma zitto, cosa sta dicendo, che cazzo maneggio armi? Una volta solo si fa, sì. Ti fanno mezz'ora di lezione al tirassegno e te ne vai col certificato da portare in questura, in 2 coppie. Uno te lo tieni tu e uno lo dai in questura. Natali, noi siamo andati, 3 volte siamo andati con Franco. 3 volte ci avevano detto di andare, capito? Un mese siamo andati una volta, un mese siamo andati un'altra volta, un mese siamo andati un'altra volta. 3 volte ci hanno fatto andare. No, tu puoi essere anche poliziotto e te lo fanno fare lo stesso per il portarmi sportivo. Ti sto dicendo che si va una volta solo, fai mezz'ora di aula per spiegarti tutte le tecniche e le cose. E poi devi sparare 50 colpi. Addirittura lì al tirassegno nazionale ci lavora un amico mio e glielo faccio fare, men che non si dica il maneggio, lo quasi unetto e via. Io ho capito, però io sto parlando di 8 anni fa, a noi 30 colpi ci hanno fatto sparare e poi ci hanno mandato 3 volte, 3 lezioni abbiamo fatto praticamente, ok? A distanza di un mese uno dall'altro circa, una cosa del genere, e poi ci hanno rilasciato il certificato, capito? Ti sto parlando di 8 anni fa, poi di cosa facciano adesso non lo so, non sapevo neanche che avevano abolito la carta verde, figurati, perché a me mi scade il 20 ottobre, stavo guardando, il 20 ottobre del 2018. 6 anni fa io l'ho fatto qua, 5 anni fa, e fanno così, come ti sto dicendo io, mezz'ora di aula e ti fanno sparare prima 20 e poi 30, e non devi pigliare manco in centro, basta che pigli il bersaglio, compreso? Io l'ho fatto con la calibro 22, invece adesso hanno cambiato e ti fanno sparare con la carabina calibro 9, che ce l'ha Gianfranco, uguale a quella del tirassegno. Basta venire al campo mio e prima di andare a fare l'esame praticamente gli faccio sparare 200 colpi. Voglio vedere se la sa trattare. Ehi, io ti ho capito, tu hai fatto 10 anni fa, io sto guardando qua, sono 9 anni, quasi 10 anni fa. Ok, 9 anni e mezzo sono, capito mia? Ed era come ti dicevo qui di Dio, poi sicuramente avranno cambiato. Però quando sono andato io e Franco, chiedi a Franco, quando siamo andati io e Franco era così, era 9 anni e mezzo fa, io 9 anni l'ho comprata da Pasquale a pistola, assieme a Franco, capito? Quindi, cosa vuoi ti dica? E comunque così, Marco, sarà così, ma non vedi la pionia, va, lui. Costa 120 euro il maneggio delle armi, è quello che costa. Io avevo pagato 80 euro, vedi? E lo devono fare tutti, anche quelli che, se uno è poliziotto, per esempio carabiniere, deve fare il maneggio delle armi al poligono, al tirassegno nazionale per l'esattezza. E lo deve venire a tutti, se no niente porto avanti. Ci vogliono 2 certificati medici, perché se uno non ha il porto d'arma deve portare i 2 certificati medici in questura, se no non le può manco detenere adesso. Figura delle cose che sono ciambati. Sì, no, i certificati medici ce li ho io. C'è tutta la cartella, tutto. C'è il versamento da 80 euro, poi il versamento della marca da bollo, il versamento del poligono che è di 25 euro e venere i riversamenti, no? Ciucciù, uno da 7 euro che non so se trocchiare, non so che cosa sia, e un bel venere comunque di versamenti. Ti sto parlando di 9 anni fa, quindi quello che hanno cambiato, tu mi hai detto che non c'è manco più la carta verde, mentre invece io ce l'ho, ed è abolita, però non serve più a niente, non lo sapevo neanche, capito? Quindi Marco, se poi tu vuoi fare il maneggio delle armi, Beh, no, ga. Ti ricudo io a capo e ti maneggi subito. Io lo so già maneggiare le armi. Solo che non interessa a me, io l'ho già detto più, a me non mi interessa, è Gianni che è interessato. È già interessato Gianni, ammazzare il cinghiale. Ah, ma fa vedere, hai fatto dormi. Per ammazzare il cinghiale ci vuole l'esame venatorio, se no a caccia non ci puoi andare. E ci vuole porto armi da caccia. Se si trovano con quello sportivo ti arrestano. Certo che sì, certo che sì, su questo non c'è dubbio. Le conosciamo, no, ma dico, ho fatto una battuta, cosa devi andare a ammazzare Gianni? Boh. Gianni, sveglia, vedi, Marco, l'hai fatto addormentare. Se lasci di venire da tutti i punti. E tu a chi cosa abbia? Ma ammazzare cinghiali, mi ero ammazzato. Però per la casa, con legittima difesa. Cosa pensi che se c'è le macchine, sto facendo una strada di campagna e mi messo il cinghiale e non li paro? Ma cosa ti sei, ma se ti trovo a cavoli tutti. L'altra notte per dire mi sono addormentato a casa e c'era la porta d'ingresso aperta, perché Marco è uscito, deve essere la chiusa male. E sono stato tutta la notte nel Claudio con la porta aperta. Semi chiusa, dai, era proprio appoggiante a te. E non fa niente. Al limite trova qualcuno e ti si ciullava. Vabbè, già c'era il cane che mi avvisava, non c'era problema. Però intanto la mattina come mi sono alzato, te l'ho venuto appresso e sono andato direttamente alla porta. E cosa vuoi fare? Vuole scendere già giù, appena alzato. O guarda te l'ha aperta. Sì, può capitare. Capitare, dai. Io non siamo a Napoli, siamo a Sassari, però dobbiamo stare sempre attenti, no? Io prima di coricarmi ero una passata lì, controllo sempre la porta, può capitare, capite? Ero una passata lì di chiave dall'interno, la chiave con la sicurezza, però molte volte lasciamo aperta, non chiudiamo neanche, tanto, non è fatta a Blisayan. Oh yeah. E allora Marco, questa moto messa a posto te l'hai? Noni, niente soldi, niente moto. Sempre soldi per tutto, mamma mia. Questo fammela vedere questa moto. Mio figlio sta cercando uno scooter 125, capito? Fammela vedere, se non ti vai nuda non ti viene in garage, usci. Prendi tira. Vabbè, io la porto da Omar, la faccio mettere a posto, non ce n'è problema. Noni, non è in vendita, ho detto prima poi la metterò a posto. Ah ok, allora se non è in vendita te ne dica. Vai, Giuse, vai in avanti. Arriva bene di radio. Tu immagini quando io vivevo ad Alghero, c'avevo lo stesso baracchino. E abitavo proprio di fronte alla questura lì in piazza della Mercedes. Ogni volta mi vedeva l'ispettore, come cacchio si chiamava quell'ispettore, non me la metto più, mi diceva sempre, a lei, dice perché, mio Dio, ci stava le sveglie e così, fratello di babbo, mi diceva sempre, a lei, se continua a disturbare le tiro un pendolo in testa le faccio avere. E boom, il tesaurito via. Poi avevo scoperto tramite altra gente che disturbavo proprio il televisore che c'era dentro la questura. Questo nel lontano 1900 avevo 14 anni, 13 anni, poi sono andato a Polo Torres. Quindi fate il conto tu. E allora l'ho conosciuta, sì. Era proprio lui, era. L'ispettore stai dicendo. Iurico. Iurico eri tu, no, ma c'era un ispettore Iurico anche in questura. Ah, Iurico eri tu come nominativo. Ah, vai da dume. Io quando ero Alghero, sai com'è che mi facevo chiamare? Zanna Bianca. Hai visto? Ma c'è, adesso non mi ricordo, mi chiedeva mia madre. Ma, avevo, manco concessione aveva, concessione l'ho fatta quando sono andato a abitare a Polo Torres, avevo 14 anni, quindi, bisogna più 12, cosa ne so, Zanna Bianca, usavo il nome che ho, che non è all'anagrafe, Pasqualino, capito, non Claudio, quando tu sentivi Pasqualino, Zanna Bianca ero io. capito mi hai? Caro Giuseppe, hai visto che ti tengo sotto controllo, a Iurico che... avanti Marco. Ehi, ora un po' ti chiamo Pasqualino. Pasqualino? Ehi, ma fai la bravo, Pasqualino è il nome di babbo, quindi rilassati. Capito? Non è all'anagrafe, io sono solo Claudio, però se tu vai al produttore se chiedi chi è Claudio non mi conosci nessuno, mi conoscono tutti come Pasqualino, quindi rilassati. Avresti voluto il tuo nome Pasqualino. Beh, allora ti chiamo Gianna Bianca. A tua sorella chiami Gianna Bianca. Gianna Bianca, Gianni ha detto qualcosa, Gianni. No, io pensavo che Pasqualino fosse davvero il suo nome, il primo nome, il secondo Claudio, capito? Pensavo che fosse proprio il primo nome. No, no, io ne ho uno solo, Claudio e Bu. Quando è morto babbo, mamma me lo voleva aggiungere, l'anagrafe non si poteva fare in quegli anni, capito? Perché quando è morto mio padre avevo 3 mesi, non l'ho manco conosciuto. Quindi ero già battezzato, non si poteva aggiungere. Infatti Don Manconi aveva fatto allora, c'era Don Manconi, ma mi ha battezzato Don Manconi, un produttore. E quindi non si poteva fare. E allora mamma ha continuato a chiamarmi Pasqualino, Pasqualino me l'ho portato sino da grande, capito? Però io ne ho uno solo di nome, Claudio e Bu. E infatti la buona anima si spesso ti chiama Pasqualino. Tutti a produttori se vi chiami ci chiamano Pasqualino. Anche Sandro, poi si è abituato Sandro a chiamarmi Claudio, ma se no mi ha sempre chiamato Pasqualino. Capo. La studio. Andave. Natalino non si chiama Natalino, si chiama Natale. E già lo so. Anch'io mi chiamo Giovanni, non Gianni, però se tu mi chiami Giovanni io manco mi giro. Giovanni il caldo. Giovanni il terrorista. Io ho 3 nomi, Giovanni, Antonio e Cesare. Si chiama Giovanni Maria. Su Ciavirà. Oh, 3 nomi hai. Sì, Giovanni Antonio Cesare, mio padre ha messo i nomi dei fratelli, allora si usava così. Ma lo sai io com'ero all'anagrafe di Genova? Sì? Marco virgola Paolo. Marco Paolo. Tu sei genovese quindi? Solo di nascita, però nota bene. Marco virgola Paolo. Quindi dopo, proprio perché c'era questa virgola, il secondo nome poteva essere omesso, infatti poi è scomparso già da quando ero credo all'asilo elementare, è sparito dagli archivi. Quindi non devo firmare Marco Paolo. Se fosse stato Marco Paolo senza virgola, avrei dovuto firmare Marco Paolo. Capito? Quindi risulta solo all'anagrafe credo di Genova. Però poi è stato omesso proprio. Probabilmente senza virgola risultava tutto il nome Marco Paolo, come Giovanni Antonio, come Giovanni Maria, eccetera, eccetera. Mentre invece con la virgola erano 2 nomi separati. Il mio figlio, quello che è morto già, si chiama Marco Antonio. Sì, sono nomi praticamente, sono nomi anche Giovanni Maria. Non so se si chiama Giovanni Maria. Sì, io gli avevo messo Marco Antonio. Sapevi tu che avevo un figlio di 21 anni, Marco, no? Ma 21? Perché 21 ne aveva? Io credo che fosse piccolo, scomparso da piccolo, molto piccolo. 21 anni aveva. Adesso avrebbe avuto 21 anni. Vero, là? E là? Marco, quanti anni aveva avuto adesso? 20? 20? Aspetta. 22 anni adesso avrebbe avuto. Eia. Me l'avevi detto che infatti per te il nome Marco era un po' importante come nome, capito? Ed è per quello che non ti stacco mai gli orecchi, perché è importante il nome Marco, capito? Se non ci sarebbe da morsicarti gli orecchi tutti i giorni. Meglio se mi chiamavo Paolo e basta, mi come Paoletta. Allora ti avrei chiamato direttamente Orecchione. Falcone, due la vendetta. L'avrei chiamato direttamente Orecchione. ragazzo e Paoletto, solo il baracchino le manca a me. Se si convincesse la sorella, tanto ormai non è più come una volta che lo fanno schiattare, poveretto. Adesso si passerebbe un po' l'anzianità tranquillo, avrebbe compagnia al baracchino. E sanno cosa ha fatto il giorno? Poi quando lo vedo in giro è un'aria abbastanza stordita, mi fa letto. Quando ho visto lo sciano era come un po' fumato, un po' stordito, un po' smarrito. Sì, ma è sempre stato così, andava a capopascio. No, ma adesso è peggio, sarà che è più anziano, non lo so. E poi è bello ingrassato, mi. Purtroppo caccione. Perché adesso non si sta facendo più pippe. Ti prendi, Giuse, di la tua, io. Io sono 4 watt, solo 4 watt, perciò arrivo bassino. Comunque sono di nascita a Genova, solo di nascita, perché la madre è pugliese, credo calabrese invece pugliese, cioè pugliese ma nata in Calabria, e padre Sassariso, quel vigliacco, Claudio, tutti e due siamo stati, non abbiamo conosciuto il padre, perché vabbè il tuo era morto, il mio è scappato, capito? Abita qua, abita in Vianizza stesso, però a scendere, Vianizza a scendere. Ogni tanto lo vediamo, ma è un mincione, un vigliacco. Dice, tu le donne piaccio alle donne, è solo come un cane, no? Non lo considera nessuno, oh, è anziano ormai, che lo caga più. Capito Claudio? Alla sua va vedendo la sora. Sì, deve essere sensato Claudio, non è al telefono. Marco, cosa ci vuoi fare? Per carità. E quelle cose ti lasciano il segno? No, manco per niente. Io il padre l'ho avuto, era mio nonno. A tutti in effetti un padre, capito? Questo no, non era niente, no. Infatti io certe volte per tagliare corto, non sto a spiegare tale, io dico, no, è morto vero piccolo, capito? È sempre stato un vigliacco, quando vedeva mamma si nascondeva nei bar o nei negozi pur di non incrociarla. È un uomo di minchia, mi scusa, vabbè c'è Giuseppe, non posso usare certi termini. E insomma, tua madre non è stata fortunata, mia amore, dai. Un volta a faccia c'è stato, prima tutto piaccione, tutto falsamente innamorato, poi come ha saputo che aspettava mamma, capito? Non ha più voluto sapere niente, ha detto beh, abortisci, poi ci rivediamo, le aveva detto, parole sue. Poi in quegli anni era vietatissimo l'aborto, vietato assolutamente, appena c'era la galera. E non so, infatti c'erano le mammare, mammare le chiamava, che col ferro dall'uncinetto ti facevano abortire col ferro dall'uncinetto. Infatti era morta anche una tipa vicino a casa, portente. No, comunque meglio niente, piuttosto avere un padre così, meglio niente. No, non mi ha fatto la padre, chi mi arrocciava era lui, chi mi premiava era lui, chi ci portava a scuola, al mare, ovunque, era sempre lui. Quindi mi ha fatto la padre. Anzi, per fortuna era abbastanza all'antica, mi sa, no adesso sarei col piercing, con i tatuaggi, con l'anello al naso, no, meglio avere un padre anche troppo tradizionalista. E tuo nonno viveva con lui a Sassari? Sì, noi abitavamo sempre tutti assieme. O comunque, in Viale Mameli avevamo le case collegate dal numero 51 al 55, praticamente era un tunnel continuo di case, a partire da... Sì, erano tutte collegate, avevamo soprattutto i muri che separavano le case, c'era praticamente io e mamma, nonno, poi c'era... Ma è difficile da spiegare, cioè all'estrema destra c'era mia zia, oppure avevamo inquilini tanti anni fa, tutte collegate le case, quindi io e mamma, nonna e nonna, mia zia, mio zio purtroppo, eccetera. Cioè uno entrava in casa dell'altro, così? Eia, cioè mangiavamo tutti assieme, capito? Così era. Vabbè, la pecora nera è stato sempre mio zio della famiglia, però eravamo molto uniti, vivevo con nonna e nonna, con mamma, capito? Quindi zia Giovanna, che era una parente acquisita, quindi ero nella bambaggia, Gianni, altro che cosa traumatica del padre, no, senza traumatica, io ero nella bambaggia, culato, alisciato e foraggiato in soldi anche da tutto. Infatti è l'epoca, quando ero alle medie, quando ero coso, avevamo bei soldi, regali da zia Giovanna, da nonno, da nonna, da mamma, da zia Paola, capito? Poi piano piano sono mancati e sono mancati anche i soldi, gli affetti e i soldi sono mancati. Vabbè, comunque il calore della famiglia le conosci. Caspita, infatti ti ho detto che e subito i psicologi fanno lì, ma non è che lei soffre della mancanza del padre, lo guardi, non lo saluto perché non esiste, per me non esiste. E comunque anche gli amici di questo di mio padre lo consideravano male. Poi anche l'altra volta Beccio, mamma l'ha incontrato, gli ha attaccato bottone, e io piaccio alle donne, è un vecchio, è sempre solo, tutte le ragazze che aveva prima l'ho mandato al diavolo perché è un uomo che non dà garanzie, che non dà futuro, capito? Un po' come me. No, Gianni, stavo dicendo. No, vabbè, ma io ormai non mi interessa mettere al mondo figli. Claudio, vabbè, ti sei sentato al telefono ieri? No, ho detto sto andando a mangiare a Filippo. E allora abbiamo parlato assieme. Siamo due rincoglioniti. No, abbiamo ripreso semplicemente nello stesso momento, dai. Ma Natalina non parla più. Gli ha parlato con le palle. Di nuovo. Guarda che comincia a diventare stalking, occhio. Non è che gli possono bussare la porta a pigliare la voce tutti i giorni, sennò comincia a... È molto male. Gli arrivo se Natalina un giorno si gira bene le scatole, esce di testa e comincia a sparare a tutti. Crusi da poco. E io ti dico già come va a finire, perché quello era lo stesso, io stavo usando l'omologatissimo con un watt, col filtro, e quel tipo della telefonata continuava a chiamare. Quindi ti ho detto, era uno scherzo oppure ci aveva la TV talmente messa male, che io gli entravo comunque, nonostante un watt e nonostante il filtro buono tra virgolette, no, certo non era uno ZG. Guarda, i dati sono buoni, dovrebbe attenuare le spurie, le armoniche, dovrebbe attenuare gli 80 dB sulle frequenze TV e radio e TV. Gli 80 dB sono un bel 80 dB. Sono, guarda, un Santiago 6 dB, vabbè, sulla nostra frequenza, sopra non so quanto vale, pare vale meno, ma comunque un bel. Le ma fanno, me l'aveva fatto un filtro a Luca, mi pare, Adriano, che non li funzionava, con un avvolgimento di filo, non so, l'ha fatto la bobina. Praticamente ho visto che dentro questo filtro ci sono dei condensatorini a lenticchia e bobinette, e dovrebbe essere il filtro pi greco moltiplicato per 3 o 4, 5 non credo, come dicono 5 celle, però almeno 4 volte lo fa, forse 5. E comunque se uno c'ha l'impianto messo male non c'è filtro che tenga. A Natalino lo sentirà sempre. Poi bisogna vedere se un TVI vero, cioè squadrettamento, oppure se lo sente nelle casse. Se lo sente negli altoparlanti della TV, non è TVI, capito? Magari l'amplificazione del sistema di bassa frequenza del televisore è poco schermato, può essere. Sta di fatto che disturba sempre, infatti è quello. E poi la gente ignorante non capisce, cioè, se prima di venire lui non c'era nulla, adesso da casa poi sull'antenna sta disturbando a tutti, ma non solo a me, pure agli altri, capito? E se la prendono con lui. Anche se lui gli spiega, guarda, io vedo benissimo, ma non disturba nulla, com'è possibile? Allora dipende, quelli non sentono ragioni, capito? È il popolino quello, il popolino, come lo chiami? Ma pur essendo giornalista non penso che sia così ignorante, Marco, è che vuol farti valere i suoi diritti. disturbare il televisore, non ti incate. Beh, un po' sì, però perlomeno cerco di trovare soluzioni. Loro non trovano, non cercano soluzioni, pigliano voce e boh. No, vabbè, ma il giornalista è più pacato, ma gli altri, quelli di fronte, sono dei rozzoni, a quanto ho capito. Io cercherei soluzioni, cercherei di capire se posso filtrare il mio segnale ingresso, se posso fare qualcosa, cioè certi urlano e basta, capito? E lì non puoi ragionare nemmeno, non puoi ragionarci con loro. Vabbè, l'unica sarebbe chiamare le scomposte e fargli vedere che tu c'è l'omologato, tutto gana, e che loro magari sono in tosto. Quindi a noi il nostro attenista ha detto che bisogna accedere nell'amplificatore, voi siete proprio di fronte a Monteoro, che bisogno ne avete, cosa l'avete messo a fare l'amplificatore? Ma c'era l'acqua del palazzo, abbiamo comprato gli appartamenti, c'era già l'amplificatore. Senza l'amplificatore non si vede la televisione, ce l'ho anch'io l'amplificatore, solo che quelli avranno amplificatori di quelli cinesi per pagarli di meno. Strano però, ma come mai non vedete? Perché siete in basso forse, boh. Non si vede, se sta con l'amplificatore ti faccio vedere che non si vede la televisione. Però da te non disturba, sempre quello è il coso. Sì, magari c'hanno quegli amplificatori cinesi che costano 6 euro, 5-6 euro, costano pochissimo. Però prendono tutto, sono a larga banda. Bravo, mia antenna è sopra l'antenna di quello che io disturbo. Fatti un po' i conti adesso, dici che li faccio con un computer quando va via. Io non ci credo. Ma nemmeno io, a meno che davvero non ci sia un mouse wifi, ma wifi sono 2400 MHz mi. All'anima. Boh. Vabbè. Mannaggia, se avessi la moto ti avrei portato il filtro stasera, però muovere la macchina è un casino. Sarei voluto venire a piedi, guarda, scendere non mi costa niente, a salire a piedi mi costa un po'. Nonostante siamo anche relativamente vicini. Non dirlo a me, che a me come faccio un po' di strada subito mi fanno male le gambe, però io sono la malattia che me lo fa. Natali, e beh, quel dolore al femore è passato. Cavolo. Vabbè. E una lassa comunque l'avrei fatta io per vedere cosa c'è, perché magari c'è qualche microfrattura e tu non te ne avvisi. Come c'è da più io dopo l'incidente con l'ambulanza, ero pieno di microfratture, mi faceva male, non si può muovere, la gamba mezzo bloccata come se avessi un crampo nel polpaccio, e c'avevo quattro microfratture della tibia. Ma io da quando sono caduto dall'ufficio di collocamento, adesso cazzo, mi si è risvegliato il dolore, magari o è anche attrusi, non lo so, magari è qualche attrusi, mi si è svegliato il dolore, ma poi quando si passa stai un bel tempo senza dire, e sto dicendo stavo camminando col bacco già, non mi metto a piangere per la vergogna. E non ti ho visto che eri col bacco. Invece io ho pure pianto, da quando mi faceva male il piede mi hanno trovato con i lacrimoni agli occhi perché non riuscivo più a muovermi. E mi vedevo perso perché volevo fare le cose e non riuscivo a farle. E alla fine mi è giunto proprio una crisi di pianto. Perché fa così. Alla fine poi non ce la fai più. Comunque in queste due settimane che sono stato a casa, che ho riposato, si è chiusa la ferita, c'è rimasto solo un mucchiettino che ci passa un ago, e il dottore mi ha detto adesso ti faccio l'abbandaggio doppio con la gomma piuma, in modo che con tutto il mio lavoro, anche se forse il piede non lavora molto, capito? È ammortizzata, e dopo devo andare a fare questo esame al piede da voi e poi mi devono fare la scarpa. Infatti, tira finta a gennaio, da voi ti pigli altri 6 mesi di malattia, almeno con quei 6 mesi di malattia ti guarisce il piede, non lo devi portare e ti guarisce. devi cercare di tirarti la pinta alla fine dell'anno. Lui mi ha detto di non rientrare al dottore, se riesce a non rientrare è meglio, perché noi adesso facciamo la visita giovedì, poi le faccio fare la scarpa, e una volta che c'ha la scarpa è protetto perché c'ha il rialzo, di modo che il piede non tocchi, le guarisce sicuramente con la scarpa, se non rientra al lavoro facciamo 13, ha detto, è già guarito si può dire. Infatti, a chi è chiesto e a chi si rientra al lavoro, lo sforzi il piede, perché premi sopra lì praticamente, il peso della persona conta un bel. In questi giorni ho visto la ragazza una volta, la tavola sdraiata, sempre guardavo il televisore, cosa stavo al baracchino, sempre sdraiata, quindi ha avuto modo di rimettersi in sesto. A me è toccato 2 settimane, roba che ha 3 anni, 2 settimane noi l'abbiamo curata, guarda, c'ho la mano d'oro, ci ho detto. Poi mi ha messo questa polverina tipo cicatrene, perché cicatrene non lo fanno più, in quel buchetto mi ha infilato, me l'ha appena allargata e ha messo dentro, l'ha riempito tutta penicillina. Infatti, io ho la macchina incastrata nella piazzetta lì, se me la tolgo è un casino. E poi non trovi più parcheggio, è quello. Se no sarei andato io a piedi da Marco, cazzo, ma mi va in aria a piedi, cazzo, a tante pizza sopra. No, non stavi tu. Non fanno. Una moto qua, ce l'avevi la moto, non l'hai data, ti dice più di più. Il pinto d'usura, me ne so, quella della mano dritta, sapeva che il motorino è stato via da Marco. Al limite mi avrei fatto prestare un altro omologato, sai che questo sia toccato, non lo so se è toccato, cazzo. Perché se c'è l'omologato che è tranquillo, che sei sicuro che non dà furie, è di lusso la situazione, almeno sei tranquillo. Vabbè. Ma secondo me Natalino non è questione di omologato, è questione che l'antenna è di quelle che rompe le balle, ci sono quelle antenne tipo la Grand Prix, io con la Grand Prix facevo TV a tutti i ganti, però in Mattia un bel che stava vivo era quella che era mezzo vetroregine, mezzo la LED, la Grand Prix LED, con i radiali 275, quella lì, quando la sacro cuore e si arrivava uno vicino al Calghero, infatti un gioco, era una bella antenna, però facevamo dei TV. Quale? Me l'aveva piazzata a Torino Capaggiata. Ma che antenna era? Firenze 2, Super Lem? No, era una Grand Prix della Lem. Ah, Grand Prix, sì. Chi lo sa, una volta sul forum ho detto quello che avevo sentito, ho detto le Grand Play fanno più TV, uno subito mi ha detto roba, e chi ti ha detto questa fesseria? Un radioattore era. Dice, non è vero che dipende da chi c'è intorno, dai televisori, dagli impianti che c'è intorno. Boh, io come l'ho sentito sul forum l'ho riportato in un altro forum e uno mi ha detto non è assolutamente vero che le Grand Prix disturbano di più. Boh, mi hanno arrocciato, mi hanno sgridato. Sì, vabbè, quello lì a seconda delle opinioni magari uno ha vissuto una certa cosa e dice così e l'altro dice che non è vero perché magari non faceva più guai, è sempre una questione diciamo personale. Avanti Giuseppe, ma infatti dipende anche come la piace, dipende da tante cose, come li fai l'impianto, da tante cose può dipendere. Io per dire facevo TV a tutta la zona. Allora, uno vabbè, non c'è più, non si abita più, dal giorno non mi hanno più rotto le scarpe. Altre che facevo TV e abbiamo cambiato l'antenna del palazzo e ho risolto il problema così. Sì, perché poi come gli altri prendono tutte le spurie, tutte le spurie che ci sono nell'aria se le prende. Andava e vabbè, cosa vuoi fare? Claudio! Ehi, qua sono, così capisco cosa volete vedere. Anch'io ho iniziato con la Grand Prix proprio ad Alghero. Tua era quella lì. Quella vetroresina con radiale centrale da 2,75 m. Io Gesù abitavo la via che passa davanti alla Mercedes, che vi è, attraversa di via Don Menzoni, che attraversa, non ricordo più, comunque quella che praticamente incrociava, ero tra via Cagliari, incrociava anche quella, usciva via 20 settembre, proprio di fronte a dove c'era prima, cos'era, Banco di Napoli, lì. Sopra a Passerò ero lì, a te lo ricordi a Passerò? Dove sei? Ho detto che abitavo sopra Passerò, era l'unico che aveva la cabina telefonica a gettone, veramente, sopra lì abitavo, all'angolo proprio con via 20 settembre, sopra lì, e lì ci abitava la sorella di mamma sempre. Va bene, va bene, ok, comunque il TDV è una grandissima rottura di palle, in tutti i suoi punti di vista. Scusate, Natali, devi uscire? Natalino? Oh, dimmi Marco. Devi uscire entro un'ora? No. Ehi, guarda che ho trovato un biglietto del tram. Scendo a piedi, tiro il filtro, ti presto il filtro e lo provi. Quella è l'ultima spiaggia, se no bisogna alzare l'antenna. Vebbo da va. Non credo che funzionerà, ma è meglio tentare. Però mi devi almeno offrire un caffè. Anche due, con la macchinetta te lo faccio. Via. Comunque guarda, esci meglio con questo, omologato, perché se ti do l'altro è uno schifo, esce basso, cupo, è una cosa che non si crede, meglio che usi quello, tanto quello è omologato, cioè è poco da fare. Ti porto il filtro e lo provo. Non credo, ripeto, non ci credo che funzionerà, però meglio tentare, ok? Poi me ne torno in tram. Fammi preparare che ci occupa dentro. Eia, già sono qui, non devo uscire. Secondo me Marco quello funziona, perché è buono quel filtro, sono buonissimi quei filtri, lo conosco, quelli del ZG non servono a niente, quello è buono, è un filtro proprio, capito, professionale. Allora, poi se non ti serve Natali, dammela a me che mi faccio una canna. Cazzo, la canna è qua, è tutto il coso elettrico è fatto, buscami quell'affare di alluminio che mi avevi detto, Cla. E così la finisco e c'ho cazzo l'antenna. Sono passato a Giulio stamattina e non c'era. Per incollare dei fili. Cosa devo buscare? Va a salire su e su, ma sala. Se non me lo ricordi, io mi sono dimenticato. E su in mansarda, l'ho visto anche da poco, capito? E su in mansarda quel pezzo lì. Ci va a mettere i cavallotti, credo, e basta. Comunque su in mansarda. Qualche cavallotto di quello lì originale dovrei averlo qua nella in sala radio, nella scatola, dove ci sono tutte le fesserie, dai. Non ti preoccupare, ce l'abbiamo quello. Avanti già. Se ce l'ha preso per un tallo e sta chiamando a Paglia per andare alla finestra. Ho visto questi qua che avevano la faccia di un po' di vicini bizzone. Ma c'è stava Reghia. Oh, Filippo ogni tanto lo fa. Fate lo buongiorno, sei buono e dritto. Nel muretto si mette a bagliare. Io controllo, non c'è mai nessuno. Non ci ho preso Bagos. E tu magari non vedi. Sì, magari non riferisci tu, intendi gatto l'umore strano, se non perché ieri ho dovuto far entrare dentro, era sempre bagendi, guardavo, non c'era nessuno, si guava lì sotto, cosa vuoi dire? Non sono sceso la verità, però dal poggiolo non vedevo niente, quindi ho detto, ma avete esaurito, stai diventando vecchio, ma... No, ma lui è partito incazzato, è venuto a letto incazzato, quelle cose così, e mi stava chiamando perché mi portava verso la finestra. E c'era vicino, mezzo dusci ci sono. Subito li riconosce, ma la so. Però Filippo, da lontano li vedi. Ce n'è qualcuno qua, però un po' sono malati, non lo so. Come ti rivedi camminenti? No, ma c'è la guinzaglia, però mi tira gli abbaia, capito? Se ne accorgono i cani. Se ne accorgono i cani. Sono venuto dalla vanno. Va bene, va bene. Capito, è Natalino? Quello è migliore di quello che stai usando tu, perché sono filtri professionali. Ah, è nuda che vi dico con chi si è la ZG. Lui. È come quei carichi fittizi, ti ricordi quelli che faceva la ZG? Ne avevo comprato uno, 30 watt era. L'ha già attaccato con un... a provare una volta, con chi stavo provando? Forse con Franco California. Abbiamo attaccato il baracchino, 5 watt, perché stavamo regolando, ci provo ad attaccare l'antenna. Cazzo, si è bruciato. Aveva scritto 30 watt di potenza, ma no, antenna. Vabbè, questi apparecchi da ZG sono più commerciali, dai, non è che siano perfetti. No, qualcosa di buono hanno fatto. Guarda, io c'avevo un alimentatore da ZG che ho dato a Luca del Monte, 25 ampere a trasformatore, che mi è durato un'eternità, ci ho attaccato di tutto e di più, non ha mai avuto problemi. Poi ci farà dare un boom, ma questione di età, capito? Dalla ZG io ho un bello strumento, lo smetto le watt, metto la tagli incrociati e 700, se non mi ricordo, che perfetto, buono. Qualcosa l'ha fatta di buono, ma ne ha fatto un bel di strozzate, mamma mia. Vedi, questi microfoni, qualità prezzo, sono andati sempre bene, questi MB+4, MB+5, ma un sacco di cazzate, sono tutte cose che non servono a niente. Avevo comprato una base magnetica con l'antenna già attaccata, VEU, da Fusaro. Il veicolare mio dava 35 watt in V e 25 in U. Ha tagliato tutta la potenza, mi si è giusto lo connettore, ma notte na. No, ma invece il commutatore da antenne, quello a 4 antenne, quello lì mi mandava tutto quanto in titica, mi sono cassussata, fondo scala, vestazionale fondo scala, allucinante. Era in corpo, poi attaccato l'apparato normale senza mettere quello, uno di stazionari, ed era in corto, adesso ho controllato i nostri spezzoni, antenne, questo e quell'altro PL, non ci ho pensato all'inizio a controllare se era in corto, invece era quello in corto, l'ho aperto, tutte le lamere erano tranquille, sembrava tutto a posto, mentre pure era in corto. Ma Giampaolo, la stessa cosa, mi ha telefonato. Casino, non lo intendo, ho detto, ma cosa c'è Giampaolo? Boh, dimmi, non lo so, boh, un casino, non sento niente, tutto mudo, no? Ho detto, da fammi sistemare che sto scendendo. Sono sceso. Io lì a un certo punto non comprendevo più nulla, ho detto boh, qua è tutto a posto, no, sono antenna qua, e dove abbiamo tutti i cigavi, le antenne, poi c'è fatto le antennine nel poggiolo, eccetera. Gitten die, ma come che fai? Il commutatore ce l'avevo attaccato sotto, il commutatore. Ah, esiste, abbiamo un'antenna diretta prima, siamo una bruva. Sono messo un'antenna diretta, QRM, perfetto, sentiva tutti i sassari da tutte le parti, capito? Ha detto, fa una cosa, bogane tutto io, bogane tutto, mettiamo tutte le antenne dirette, ognuno al suo baracchino, ognuno al suo, là c'è il V e U, tutto, c'è già un po'. Ma già avete scelto, e ragazzo felice. Ecco. Sono Marco. Questo è l'omologatino piccolo piccolo, è l'omologato degli omologati. Dite se la modulazione è passabile o è troppo cupa. Sì, per vendere le anguille. Ah, te lo vieti, non è importante Natalino di chissà cosa, è meglio così come ti scende va. Io l'ho detto, questo è omologatissimo, piccolo. Ma com'è la radio? Ditemi com'è, cupa. Si può essere detto un'italiana. Sembra italiana, oh, allora è meglio il suo, ma io te l'avevo detto che era meglio il suo. Ma tu avete parlato in due, no Marco, non mi piace la modulazione, sei tutto un asino, tutto così. No, Natalino sta facendo benissimo, abbiato che scende bene, si sente bene la voce, tutto, no, questa è troppo cupa Marco, non mi piace. Ma cambiate il microfono magari va bene. Io te l'ho detto che usciva male Claudio, è meglio il suo. Certo, però questo è quello che abbiamo fatto la prova l'altro giorno, c'hai un segnalone, ma sei sicuro che c'ha 5 watt quella radio, 4 watt? Cazzo, sei ancora più alto di quello che usi tu. No, questo è un altro, è il Polmar ZX40, chiara blu, sei 9.32 col Galaxy, sei 9.32, sei, stai superando il più, allucinante, boh. Allucinante, non lo so se si può applicare il microfono che c'è Natalino, se hanno lo stesso attacco, portalo, provate, non lo so, non lo so, ma con questo microfono fa cagare, mamma mia quanto è brutto. Questo è 6 poli. Sei poli, non lo so se ne ha Natalino. Io 6 poli non ne ho. Quindi già sono in crisi con quello di Coso, di Giuseppe. Adesso a fine settimana, Giuseppe, vedo di farci un salto. Come ci vediamo? E così facciamo quel lavoro dell'MB più 4 e almeno si è a posto. No, no, ce lo posso fare, ma sganciato hai. Passo. La differenza. Ma voglia che c'è la differenza. Già, hai vista? L'hai vista come ci butta agganciato? Minchia, lo stavo perdendo anch'io. Da Santiago 5 c'ho QRM a 4 e salito subito a 8.5. Avessi vera differenza, va bene Giuseppe, no, beh, quello te l'ho detto io. Io 3. C'ho 2 più 5 e un più 4. Più 4 c'ha il connettore della IAESO che non uso più. Lo taglio, lo mettiamo quel connettore tuo e usi quello, nuovo dentro la scatola, l'avrò usato se no 2 volte, e te lo usi Giuseppe, te l'ho detto che te lo do, non ti preoccupare, devo solo avere il tempo di poter salire e farti questa cosa, ok, avanti Natalia. E cosa devo dire avanti? Cosa devo dire? Cosa Natalia? Sto facendo cosa? Ma stai usando sempre il più 4, basso? No, lo sai che ti agghi sui più vecchia, ancora non si è dovuto trovare un tempo, non è normale sto usando. Vabbè, però un migliorio c'è stato, se ti allontani no, ma se lo tieni vicino esce bene. No, ma non penso sia il microfono Natali, dai, tu mi segni che cosa può fare un microfono? Alterà appena la voce? È un problema della trasmissione da radio Natali, non penso perlomeno, boh. Non lo so, va, non lo so. È una cosa che comunque prende un po' male sicuramente. Avanti già. Magari non sarà quel caso lì, ma secondo che il microfono è manda spurie pure. Ci sono microfoni molto potenti che già disturbano. Molte volte col microfono normale non disturbi e col microfono amplificato sì. Non è il caso di Natalino perché non è un microfono che è super potente. Sì, è bella la radio, ma non è che sia di quella che disturba. No, già va bene. Vedi che, come dico io, tu col Magnum sei sul 3, mentre invece col Galaxy sei più basso. Come sul 3? Vabbè, questo qui, Claudio, capiamoci, questo qui esce col 20 watt, il Galaxy 10. Infatti è quella la differenza, mi ha fottuto l'altro giorno già, ti dicevo come mai sei così basso, capito? Perché a volte ti sentivo spesso col Magnum e quindi mi sono un po' inceppato, adesso ho capito la differenza, sì, infatti sono 25, quello là, il Galaxy, e qua sei sul 3, proprio sul 30, capito, sul più, e quindi già è giusto, non ti preoccupare. Marco Tarantola, Lucertola, anzi Scorpione ti chiamo adesso, anziché Ratapignana. Cosa mi hai mandato? Mamma mi ha mandato il tuo baracchino di Rugombo, non mi esce a vedere. Cosa abbiamo? Marco Conda, vediamo. Cazzo il baracchino è una poco verraglia, che trovo il baracchino. Bellino però, Natalino. Oh, bellino. Ah sì, ci vorrebbe un adattatore da 6 a 4. Da 6 a 4. E già lo fa Natalino, lo sa fare. Io ci ho fermo con la Midland che devo fare l'attacco al microfono e non mi decido a farlo perché è complicato, quello dico la verità, non mi ci metto nemmeno a farlo perché ha 6 o 7 o 7 cosi. Bisogna che me lo faccia fare da qualcuno che lo sa fare. No, già, lascia perdere. No, noi abbiamo deciso Massimiliano di fare fare una cosa, capito? Lo taglio, si collega diretto a quello suo e poi vulcanizzato il pezzo, capito? Non glielo faccio connettore, glielo metto diretto, taglio direttamente il cavo e le inserisco direttamente i fili ai fili del microfono, però usando direttamente già il suo saldato, capito? No. E poi le metto la guaina, come si chiama quella guaina, che praticamente non si vede, dove c'è la giuntura e basta. Servore spingente. Esatto, già, bravissimo. Metto quella ed è perfetto, tanto lui non lo tira, niente. Se no non li vogliamo bene, è un casino fa chissà cosa, già. È un casino. Mi sono Andrea, ci riesce, però ho telefonato l'altro giorno ed è incasinato. Mi ha detto se lasciamelo, se trovo 5 minuti te lo faccio. Capito? Però non voglio rompere le scatole, quindi abbiamo trovato questa soluzione con Massimiliano. Ma è pronto, boh. Farlo diretto allo spinotto, però questo spezzone l'ha aggiunto e poi magari tira che ti tira il fascio. No, già, con la guaina non si vede niente, che c'ha la guaina dello stesso spessore del... Non si vede niente, no? Abbiamo provato un pezzettino, non si vede niente. Non vede nulla, no? Più l'ultimo pezzettino del connettore, capito? Puoi farlo anche tu se lo vuoi fare in fretta. Cosa deve tirare? Il microfono da tavolo deve tirare. Il microfono da tavolo rimane fermo, non deve tirare niente. Poi è abbastanza stabile quello suo, perché lui usa il microfono normale, lo tira ma non esce. Ah, è da tavolo, allora vabbè, da tavolo lascia fermo, non è che... Se fosse stato un microfono a palmo sarebbe stato diverso, perché tiri. Io prendo il microfono a palmo, qua ce l'ho col magno, però ha un filo che è lungo 3 metri, cazzo, non tiri nulla, è proprio lungo. Se vedi quello che mi ha dato Sandro, il mio MP5, no? Mi ha dato uno Sandro, il mio MP5, che non lo usavo. C'ha il cavo, fate lo giro ad Aredo, di radio, torre ad Aredo, la giubbotto Burusotto, la radio, Cugnado, che sarà 4 metri. Cosa ne va di via, non lo so. Ma no, perché c'avevo la radio molto in alto. Sì, ma è per dare i controlli, cosa di tu, il bisadritto. Questo del Galaxy è giusto, è la verità, li sta a fianco, proprio perfetto, non c'è un millimetro in più. Se sarebbe stato un po' più lungo sarebbe stato meglio, perché non tira quando è lungo. Vabbè che sta fermo, quindi non è che ci siano problemi. Sì, Marco, abbiamo capito che stai. Sì, come questo. Io sto usando il Galaxy col P5, c'è il cavetto normale, anche quello malato Gigi è molto morbido. Il malato Gigi è morbidissimo, bello, lungo, morbido, il P5, mentre il P4 è originale suo, proprio originale, capito, però è abbastanza morbido, lungo, già va bene. Non lo faccio quella soluzione lì, tanto lui lo tiene fermo e faccio prima e faccio una cosa fatta bene, si mette quella guaina, un muro stringente, proprio nel pezzettino, giusto dei fili, ed è una cannonata, prima a sinistra, appena appena leggero giro col vulcanizzante, poi infilo la guaina, la scaldo e lo giro dita. A posto, e così usa il microfono a tavolo e esce anche meglio, le viene meglio, capito, che stare con questa cosa tira e molla. Vero Giuseppe, fatemi segnare che va. La base della Fayette 4 attacchi, ma quel connettore a 4 che mi hai fatto l'altro giorno dell'HB23. Io non ce l'ho più l'HB23, mi ce l'ha Giulio, quando sento a Giulio se ne serve, quando vengo a Ghero me lo dai. Perché Giulio gli ho dato l'HB23, capito, però non c'ha il connettore originale come quello che c'hai tu, è stato messo a 4, quindi se le serve te lo dico, me lo dai, glielo do. Va bene, c'è, controlla, che tu lì quella cassetta, non hai poco verraglia, vai già. E cos'è questo? Questo è il Cobra. Cobra S, cambio. Ehi, già va bene anche questo. Neanche quello mio però è... Mamma mia, quello è una bestia. Quello di turba tutto il quartiere. E a tanti vedere entra l'armadio. Marco è uscito, va bene, controlla allora, vai. Regola. Sì, a sinistra, due petto lecco, dai, guarda come va, vedi. Bene, modulazione perfetta. Cosa fai domani? Domani vengo al lavoro, Claudio. Dalle 2 alle 10. Santo Antonio mio. Dalle 2 alle 9, dopo poi non sono male, no, perché sono le 10. Sono tra qualche giorno, faccio il bagno da processo di giornata, per quello che sono le risultate. Sì, ci sono io, non c'è problema. Ciao, raga. Sapevi che era così, anche mio fratello ogni 2 anni fa la visita, però grazie a Dio lui, grazie a Dio, poverino, invalido è, invalido rimane, no, chi ciabba? Sì, mio fratello ce l'ha già fissa, non gliela toccano più, già passati i 4 anni. Così bene, va, guarda Claudio, non ci ho fatto. Solleva appena appena. Guarda, 1, 2, 3, prova. Ok, così va benissimo. Non conosco quella radio, non c'è un problema. C'è il display rosso, con quello che ho io. No, è intercambiato, dice, può diventare o più rosso, o più rosso, arancione, un grado, è un piccolo. Io ce l'ho rosso, non so se è intercambiabile, ma penso di sì. Cambia il colore, se volete. Tu è l'S, mio il GTL, la versione te l'ho detto da 100 watt. Ah, quello dicono che per questa non è quello che si vediamo, ce l'ho. Mi si è fatto le sotto la faccia e una bestia, oh, che bello. L'avevo mandata la foto. Sono quelli tende di sotto piacciarate, hai già provato. Aspetta che c'è un messaggio, vediamo. Così ha detto. Ecco, già vuoi che ti dica. Attenzione, la signora che sei l'ambio, l'ambio, come fai? Ui, ui, come sto? Ecco, sto, ma voi, ma voi, voi, Claudio, Claudio, Claudio, cambio, cambio. Allora, era una moto che non lo fa credere. Già va bene, già va bene. Se tu c'è anche la coda dell'ecco. Già viaggia, già viaggia. A me Giuseppe, trovato lei questo connettore. Si per chissà cantina, non ha poco di ferraglia. Attento Giuseppe, mi ascolti, cambi io. Come sente? Questo non mi sente. Attenzione Giuseppe, ascolti doppio rum, cambi. Prova a chiamare. No, sta controllando dove si trova questa cosa. No, lo chiamo con che cosa del genere. Aspetta che hanno suonato. Ora. Natale, chi sei? Natalino. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio rum che chiama, cambio. Attenzione, binario 10. Aspetta già che è arrivata gente, un attimino. Eia, qua sono. Attenzione, attenzione binario, dici cambio. Parlare con voi. Oh già. Dimmi. Dimmi Giuseppe, aspetta. Beh, dai, a quanto, eh? Ascolta, metti la potenza a sì che sta salendo il QRM, mettilo a sì, lascialo stare a sì. Ok, lascialo stare a sì, vabbè. E quindi l'hai trovato? No, non penso, devo sentire a Giulio a vedere cosa dice. Capito? Tu tieni il microfono vicino alla bocca, Giuseppe. E un medico RM è salito al ghero omicidiale già. Guarda, ero a casa sua con Massimiliano, buh. Quando sono arrivato a casa c'avevo 3, lui c'aveva 7 di QRM. Sì, anche l'aeroporto. Addirittura quasi 8 c'hai Giuseppe, figurati. No, mi anche io commutato. Che è passato a Massimiliano, salute. Ciao a tutti, buonasera. Ciao Massimiliano. Io qua lo stesso, commutare. Questo qui è il cobra, là. Regolato così, va bene? Sì, sì, alla grande. Ma il segnale com'è, Claudio? Come? Sì, il segnale è uguale, sì, va bene. Sono un po' che non l'accendete. No, va bene, già, va benissimo alla grande. Claudio, c'è il microfono, non è, esce molto bene, questo è un bel pezzo. Oh Giuse, ma quella cabina che te non lo stai più usando? Dove c'è dentro la vetrina in sala? Io Giuse, io. Ah, se lo ricordano, allora tienilo. Perché c'è un bel bene quello, capito? Per fare questo città è ottimo. No, non una baracchina, non funziona, ne ha uno. Già, bellissimo, con le bande da tre, baracchino, con le bande da tre e la scheda, il trasvertere per i 45 metri incorporato. Oh, baracchino di vecchia generazione. Che marca è Giuseppe, quel baracchino che hai fatto vedere a me? Quello che c'hai sotto il base? Oh, Claudio. Guarda tu, un baracchino della guerra, ma lo sai quando esce bene? E se no non riceve bene. Dimmi Natalì. Oh, guarda a vedere il segnale, gli ho attaccato quel filtro. 9.15 abbondante, sì. E prima quanto arrivavo? 9.10. E vabbè. No, stai andando bene Natalì, alla grande. Gianni, io cosa sto usando? Eh? Cosa sto usando io? No, il K cos'è? Il KK. No, amplificato. Già, sei basso del radio però adesso. Aumentalo Michigi. Non lo passo perché stavo parlando lontano. Oh, usciti di Nimmo. Perché basso mi senti del radio? È quello che avete. avete regolato con Massimiliano? No, non ti sento basso, era basso il volume mio. Adesso se l'ho messo normale ti sento bene. No, no, è Giulio Dollaro serve. Va bene, va bene. Ok, quando vengo ad Alghero me lo dai, dai. Che cosa, va a il microfono? Ehi, l'originale della KB23. Che è particolare, e vabbè, anche quello del Midland è particolare la cara. Fare i righi massimi. Beh, particolare sì, è quello a tre punte, o a quattro punte che entra dentro. No, non è come quelli, come quello che c'ha, come quello a saldare, capito? Quello che già viene bene, però è un microfono particolare, quello bianco, col tondo in mezzo, te lo ricordi? Sì, non lo ricordo. Anche quello del Pony era, non era bianco, ma si è fatto il tondo dietro, e già no, quello già va bene. Natalia, arriva, se che sta collegando tu. Natalia, lo vuoi un 747 da mettere lì? Ma va, mi ha detto appunto, se lo vuoi, se lo vuoi più grosso. Ma stava cercando, no, adesso non penso che lo vuoi. Forse per la macchina magari le serve. Perché lo stai dando Massimiliano? Perché 747 non lo fanno più. Ehi, vabbè, non mi interessa, già ne ho altri. Qualità prezzo, va molto bene, io. Ma vuoi andare che a volte sì o no? Cosa, classe? A sollevare la voce, ti ho detto. Non starà finendo la batteria, no? Perché da un po' che non lo uso. Guarda adesso se va bene, va bene. Ma non è forte la modulazione, sicuramente la batteria. Ora, ora, ora, qua, qua. Uno, due, tre, prova. Guarda adesso. Adesso già va bene. Cavaga, cavaga. Ci voleva un po' di checco, dai. Dal voto sul checco. No, ma già va bene, dai. Sì, intanto porta lo standard. E poi corri un raffermo di nuovo. Ah, se c'è col Midland che lo devo attaccare. Devo attaccare col microfono, se lo fermo un po' di tempo. E va bene, funziona bene. E cos'è vuoi che ti dica? Quello andava bene, c'è qualche cosa, con le BBC5, te lo ricordi quando si va a porto? Sì, sì, non ricordo come. Con le BBC5 andava bene, infatti non lo so adesso, va bene, sì, c'è il piano di sotto, ma lui lo fa metterci le cartelle, lo so che è la concessione, eccetera, roba lì. C'è un piano sotto, buono. C'è poi che metto le cuffie, eccetera, la roba lì. Ci sta anche il DAC qua, eh? Sì, ma già sta meglio qua. Vabbè, sì, già l'ho perso tutto, il primo praticato che ho lasciato, è in America. Vabbè, dalla Cina ho ordinato da poco 90 kg da colazione, che poi costava 50 euro. Ho dato un sentimento, l'ho pagata, quindi uguale. La cosa già? Ho detto che da poco sono andato su questa cartolina che era molto grossa, con la croce, eccetera, dorata, costava 50 euro, ma per tutti i mesi l'ho pagata 12 euro, uguale, uguale, uguale, non è che si partendo con problemi, con problemi, con problemi, manco guardando più nel servizio. Natale, Uia, che sto parlando a Massimiliano, mi sta distraendo, cosa hai detto? No, niente, ho detto di una cartella che ho preso qui, che c'era tutti, che costava 50 euro. Sono andato in un città cinese, 12 euro l'ho di pagare, uguale, uguale. Vieni a stare attenti a comprare i suoi B, perché i suoi B mi paghi che visore, ma te sei cose che sto vendendo dei cinesi. E magari mi compare già dai cinesi e si rivende i tributi di più. Da 12 euro a 50 euro con offerta, c'è la cartellina in acciaio, non diventa nera, eccetera eccetera. Comunque è molto bella, c'è anche una maglia particolare. Beh, è così. Marco. Bollo, DC, cambio. E beh, Bolloni. Vabbè, Ugarino. E allora? Allora? E tanto, Gianni. Sì. Te lo ricordi a Carmelo di Alghero, quando parlava con Acchino? Sì. Carmelo. No, non me lo ricordo. Carmelo, Carmelo, io mi ricordo... Carmelo Rosso... Carmelo Rosso... No, no, caso lo ricordi a Carmelo, se non mi ricordo il nominativo, che entrava con G, con Carlo, quello di Alghero. Carlo me lo ricordo, era G. Vabbè, comunque è deceduto. Oh. Non te la presenti, il nominativo non te lo ricordo. Aspetta un attimo già. Se lo ricordo il nominativo? No, forse Carlo se lo ricorda, Carlo. Non ricordi a Carmelo uno di Alghero? Chi? Carmelo. Eh? Qual era il denominativo? Carmelo. Carmelo. A Carlo. Carlo e Carmelo. Ti va già la vita da strada. Andiamo a luce di tempo. Allora io, ma di radioamatori, Carmelo. No, ma tu stai dicendo a coso, a Angelo Plifo? No, guarda che a computer a Cavallino, ti ricordi a Partacchi? Ma l'animatore quello? Dice, no, ho capito, sì, che era tedesco mi pare, non era manco italiano. Qual è il nominativo? Ma non è l'animatore quello? State parlando in due, la cosa che avete detto? Parlo una volta. Allora, se parlo io ti sto dicendo che non è l'animatore Carmelo. No, no, CB, CB, l'animatore è Carlo. E Carmelo com'era, boh? Non sono particolare, Claudio, che non era... Mi pare che fosse tedesco, roba del genere, che quello era abbastanza qua. Carmelo, Carmelo, boh. Non me lo ricordo, non lui non me l'ha detto. Cavallino Rosso. Una da Cavallino Rosso. Se lo dia. Da quanto ho capito 53 anni, forse a quanto hanno detto è morto di infarto qui su Zecco. Qui su Cavallino? Sì. C'è anche nei necrologi. Cavallino. Carmelo schiena. Cavallino. Sì, Cavallino Rampante. Cavallino Rampante, però su Paltarchi, bravo. Che si chiamava su Paltarchi? Cavallino Rampante, che è un cagazzo, boh. Pittella, ciao Massimo. Se vieni qua quando non sai cosa cazzo fare, a rompere le palle. Emiliano mi sto... Mi sto goccia, che cazzo, boh. chiamare, c'è tanto fra un po' chiudo che vado a portare a Filippo, dicendo con lui. Allora dai, se ci sei ancora io vado, che vado a portare il cane. Ok, già ci sentiamo, vai, ciao. Aspetta, non vado là. Ah, vai. Che vuoi che te dica? Speriamo di non disturbare. Ma non credo, comunque. Bella limpida la modulazione, bella, bella pulita. Ah, bella. Sentiamo domani che me ne verrà a cenare. Anche cosa ho detto? Tanto perché doveva pranzare. Auli, uli. Mia, orso yogi, mi. Mia, sono già arrivato a casa, eh. Preso la 7. Sennò a piedi in salita viene a Grecia. Già mi è venuta Grecia in discesa, figurati. Oh, ho fatto, ho salito anche di segnale, Natalino. Da 9.10 a 9.15, Marco. Ma anche il segnale amplifica qualcosa? No, assolutamente no. E come mai è così alto di segnale? Sarei tu che ci vedi strabico. Guarda il segnale, Marco, da te come? Mamma mia. Natalino, sentiamo 5 ti sta arrivando. No, ma c'è il microfono normale, Capri, capito? Strabico di Vegani, Marco. Se ho commutato al 440, cioè al 430, proprio per vedere il segnale, e sia al Galaxy che anche al K, vedo che è aumentato il segnale. Diciamo, tutti allora di Zena siete in trendy, ma voi te ne siamo andati. Buonasera, buonasera a tutti. Però io sono quasi in chiusura, perché è pronta la cena. Ciao Francesco, buonasera, ti avevo preso per Mauro, quello di Punti. Ciao anche a Capri. Non lo so Marco, io ho notato questa differenza. Ho commutato tre radio, tutto, su tutte e tre radio mi è aumentato di segnale da quando ho inserito quel filtro, non lo so. Che vuoi che ti dica? Questo me lo dovrai dire tu. Avanti Capri 2, vai. C'è Francesco Uranio che ti ha salutato. Via. Natalia è montato correttamente, sì, ce l'ho anch'io. Antenna sull'antenna e l'altro nel baracchino, sì. Guarda, a me Claudio ha sempre preso watt. Se ne mettevi 4 watt te ne dava in uscita 3,5. Ma amplificare assolutamente no. Oh, non lo so. Misteri della scienza e della tecnica. E vedi che anche la Capri ha aumentato il segnale. E Marco, cioè, 4 radio commutato, L'ho notato subito. C'era anche Massimiliano qua, quando mi ha chiesto il controllo. Aspettava di un BEM, che sia più pulito il segnale, l'attacco dell'antenna, cosa vuoi ti dica? Non lo so, non me ne intendo di quei filtri. Però ho notato che è salito il segnale, ma di brutto, Infatti ho detto, ma non è che avete imbagliato, avete attaccato un lineare invece di attaccare un filtro, cosa vuoi ti dica? Avanti Natalia, Urania lo senti adesso? A Urania l'ho sentito, invece a Capri non lo sento. Ma lui ti sente Santiago 5, però ieri non ti sentiva, vedi? Sì, sono a casa, sto usando un baracchinetto omologato, brutto. Cambio radio. Perciò non gliela volevo dare, Claudio, non la vedi come esce? nessun radio di che non valgono niente, mi. Che poi sarebbe Lafayette Zeus, capito? Questo si chiama Polmar, ma è uguale. Ah, ecco, ecco, sì. Polmar l'ho avuto anch'io, 23 canali, però. Però Lafayette Zeus sì, è simile. L'avevo vista in una rivista vecchia. Ed è simile, dai, una cosa del genere. Va bene, va bene. Natalino sta pappando. È a cena. Avanti, capri, riprendi. Il mio era così, ma questo di Marco penso che non sia uguale a quello, vero? Ti ho mandato la foto su WhatsApp. Sì, sì, sì, ho capito, ma il mio non era come quello, sì, sì. Non gliela posso mandare a Capri perché non ce l'ha WhatsApp. Capito? C'ha la zappa, le manca il picco e la pala. Vai Francesco. Ciao Uranio, ciao Natalino, Gianni se l'ascolto, tutti quelli l'ascolto, ok. Ci sentiamo domani, dai, che oggi ormai è tardi. Sentiamo in migliori condizioni, ok? A domani. Vai Claudio. Ciao Marconi, dai, ci sentiamo. Buon fine serata, buona cena, buon tutto. Saluto a mamma e alle prossime. Avanti Uranio, vieni anch'io. Termino la sigaretta e poi me la vado a cenare. Avanti Uranio. Ciao Francesco, fate sentire, passate qua ogni tanto, ci fa piacere, siamo sempre qua noi, non ci spostiamo, ok Gianni, sono una vita che non lo sento, ok dai, salutamelo quando lo senti, ci sentiamo Francesco, piacere averti ascoltato, buon fine serata anche a te, alle prossime. Ma infatti, mi hai dato quella e ce li ho ancora. Quelle del Dacchio le avevo comprate su internet, erano nuove nuove, poi non l'ho più usata, l'altro giorno sono andato, accende, tutto funziona, però i watt sono calati tantissimo, quindi stavo cercando quelle valvole lì per mettergli le nuove, capito? Perché gli avevo abbinato anche il microfono, MB+5, esce benissimo, però c'ha 3 watt e mezzo, pochissimi watt, quella deve dare 15, minimo, 15-20 modulati, quindi è calata, perché c'ha lo stadio finale a valvole, capito? Quindi è calata tantissimo, e io adesso vedo un po' se riesco a recuperarla da qualche parte, le rimetto nuove, la tengo accesa tutti i giorni, la uso, come sto facendo col Galaxy, perché i baracchini non le stavo più usando, capito? Quindi si farà di tutti i rovumi, perlomeno i valvolari, dai. Va bene, va bene. Dai, riprendo un altro passaggio e poi chiudo già. Tu già cenato hai? Sì, che ce li ha, ne ha due. Ne ha due di viti a fianco alle valvole. Ah, dici di fare così allora? Sì, sì, domani lo apro e c'hai una ventina di viti, c'è, butto lì anche il pannello, le viti del pannello davanti, dove sono le maniglie, è un casino qui con la radio. Comunque domani mi metto sul tavolo, me la porto in salone, perché qua non c'è spazio, e la apro e poi la riporto qua. La collego e faccio quell'operazione a vedere se torna alla normalità, perché è una bomba con la radio, è una bomba, capite? La voglio usare ogni tanto, come faccio col Galaxy, con gli altri baracchini, capite? Va bene, no, beh, qua umidità non ce n'è, non è questione umidità, è questione che sicuramente, così come hai detto tu, ha perso l'accordo, quindi bisogna riaccoppiare bene le valvole e tenerla in funzione. Va bene, già, dai, io chiudo, sono già le 8:20, mi guardo un telegiornale alle 8:30 e hanno trovato quel ragazzo di Coso, lì all'Argentiera, mi fa, a 16 metri di profondità, questo ragazzo, questo Sabino, si chiama, un po' di vista, mi sembra di conoscerlo. 16 metri di profondità stavano cercando, mi hanno dato a fare caccia subacqueo e avere macchio. Allucinante, voglio vedere bene chi è, perché mi sembra di conoscerlo di vista. Dai, già, saluti a casa, ci sentiamo domani, ok? Saluto tutti quelli che sono in ascolto sul canale 10. Ciao a tutti, buonanotte, a domani. Grappa già, altrettanto a te, a domani, dai, ciao. Ciao, Claudio, ciao a tutti, buonanotte a tutti, ciao.